È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lei è un povero presuntuosetto invertebrato. E ancora a casa, Emo. Eccoci qui, iniziamo con la notte dei morti viventi. Oh mio Dio. La notte dei morti viventi, ne sai qualcosa? Oh mio Dio, ma che è successo? Ne sai qualcosa? Non sai nulla come al solito, no? Alle 18.32 sei disinformato sulla notizia, sulla notizia politica del giorno. Ma non è una novità, non è un problema, ti dico tutto io. Quando tu vorrai, io ho al mio fianco un ospite incredibile e poi tu mi dirai se non vale la pena pagarmi lo stipendio, vedrai. Ma sai che non me ne frega niente. Sai chi ha evocato la notte dei morti viventi oggi? No. Non lo sai, benissimo. Tanto sentiamo la notte dei morti viventi. Come al solito ci troviamo di fronte alle 18.33 a un Parenzo totalmente ignorante delle cose del giorno, ma d'altra parte è assolutamente normale. Inchieste sul territorio. Sì, sicuro. Sentiamo. Città raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Zombie morti che camminano sarebbero secondo Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, sarebbero i leader della maggioranza, cosiddetta maggioranza ABC, Alfano, Bersani, Casini, e anche il presidente del Consiglio Monti Di Pietro. Un attacco di grillismo. Che non c'è una ragione al mondo per mantenere un giorno in più questi morti viventi che camminano, che vivacchiano alle spalle del paese. Morti viventi a calci nel sedere dagli elettori. Non esiste più una maggioranza in questo Parlamento. Esistono soltanto dei morti viventi che hanno paura di andare alle elezioni perché saranno mandati a calci nel sedere a casa dagli elettori. Poi parla di un'alleanza con Selle e con Grillo, anche se Grillo non lo sa e probabilmente questa alleanza non la vuole. Ma vedremo, la Zanzara inizia in questo modo, 800 24 00 24. Quello che mi stupisce, chi hai Parenzo? Risolviamo tutto subito questa cosa, allora, ridicola, avanti subito. Su. Tu devi avere... Ma dove diavolo sei che non si sente? Dove diavolo sei? Lo sentiamo? Non lo sentiamo più. Roba incredibile. Devo iniziare la Zanzara in questo modo, cari ascoltatori. È un luglio così, è un luglio di disperazione per me, è un luglio di rabbia, un luglio di arrabbiature, un luglio di disperazione, sì, lo ripeto, di disperazione per quello che il mio socio combina in giro per l'Italia. Vorrei finirla qui e invece devo proseguire. Allora sentiamo che cosa. Sentiamo il Formigoni Furibondo a partire però da Crozza. Con il sei, l'eccellenza in Lombardia per noi, sono le convenzioni che tu son belle le convenzioni, lo so. Hai dato alle cliniche qui, grazie di esistere. Figurati un po'. Presidente tu. Mai perché tranquillo, non mi dimetterò per le tue vacanze da qui. puoi pure volare da qui fino a Taipei. Qui non vogliamo parlare delle inchieste, ma del modo di comunicare di Formigoni. La sua rabbia esplosiva, le sue arrabbiature, i suoi attacchi sono vincenti oppure no? Secondo me no. Però l'ho già detto ieri, lo ripeto, vi faccio sentire, me ne fotto delle critiche di intellettuali da strapazzo. Io ho detto che me ne fotto di quegli intellettuali da strapazzo che da bordo delle loro barche criticano il presidente Formigoni. Però queste critiche sono condivise da una parte della popolazione, sicuramente. Lei lo sa? E poi i gazzettieri della Procura di Milano. Tutto qua? Signori, non c'è una novità. Avevo già letto tutto, come voi, come tutti, avevano già letto tutto sugli articoli dei giornali queste settimane. In questo devo rivolgere un'altra congratulazione, perché soprattutto alcuni di voi in questo periodo sono stati dei degnissimi gazzettieri della Procura di Milano. Siete animati da cieco furore ideologico. Lei ha pubblicato i dati numeri, me ne sono reso conto. Voi non avete il minimo di spirito, voi siete soltanto animati da cieco furore ideologico, e allora lo spirito ce lo metto io, perché c'è sempre i cittadini che ci stanno seguendo ed è loro che penso. Però lei mi ha fatto perdere il filo, è riuscita in una parte del suo intento. Figurati un po'. Presidente tu. E andiamo a Ingroia, a proposito di Che Guevara, Che Guevara, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara, arriva, La estraña me transparencia de tu querida presencia. Secondo Calogero Mannino, Borsellino era arrabbiato con Ingroia perché sulla parete dietro la scrivania non aveva la fotografia di Napolitano o il crocifisso, bensì Che Guevara. E Borsellino questa cosa dà fastidio. Episodio raccontato ieri alla Camera e poi qui alla Zanzara dal signor Mannino. Ingroia, sentiamo. Ingroia, non so se lei tenesse Che Guevara nella stanza, non lo voglio sapere. Ma... No, non mi pare proprio che lo tenessi. Non so, Mannino, sulla base di quale fonti arriva a questa conclusione, però con tutto voglio dire, Che Guevara è stato, tra virgolette, un mito per i giovani, di destra e di sinistra, quindi quale sia la colpa di chi dovesse tenere Che Guevara come punto di riferimento, non so, bisognerebbe chiederlo al ministro Mannino. Meglio Che Guevara che Vittorio Mangano, eh? Ah, certo, Vittorio Mangano, chiamato eroe, definito eroe da Dell'Utri. Chiamato eroe da Dell'Utri, non è a discolpa di Dell'Utri, eroe per lui, no, eroe in assoluto. Ha fatto molto discutere, c'è un ospite già pronto, mentre ho perso definitivamente Parenzo, che vada al diavolo. Ha fatto molto discutere l'intervento ieri, l'intervista che abbiamo fatto ieri a Giusba Valerio Fioravanti, condannato all'ergastolo per la strage di Bologna, autore di diversi crimini, un elenco lunghissimo che non potevamo, era impossibile fare ieri in trasmissione, quando a sorpresa l'abbiamo chiamato perché non era preventivato, a sorpresa, questo è un aspetto da considerare. Fioravanti, devo dire alcune parole molto molto discutibili, per usare un eufemismo, per esempio quando dice che la morte di una suocera è diversa da quella di un figlio. Sentiamo Fioravanti. Mi interessa sapere se questa frase "ha perso solo la suocera" e la suocera non è una vera perdita, è una frase che tu hai pronunciato. Questo è... Allora, non credo, perlomeno non in un contesto offensivo, in un contesto di riflessione. Non è questo, naturalmente, c'è un altro passaggio in cui dice esattamente "la morte di una suocera non è uguale a quella di un figlio". Mentre io ricordo che avevo uno scontro con Secci, ma Secci aveva perso un figlio e quindi in qualche modo lui era giustificato nel suo odio molto, molto feroce, in altri casi mi sembra di capire che ci sia più una prevenzione ideologica che non un vero dolore. Cioè perdere un figlio e perdere la suocera sono due cose diverse, dici? Assolutamente diversa, anche perché se ricordo bene le perizie, poi la suocera non è affatto morta nella strage. Eccoci qui, accuse da tutte le parti per aver ospitato Giusba Fioravanti. Sei tornato, imbecille? No, non sento niente. È con noi Mario Adinolfi, deputato del Partito Democratico. Ciao Mario. Ciao Giuseppe. Allora, che succede? Perché dici che non dovevamo intervistare Fioravanti? Scusami. Guarda, io contesto da tempo l'idea che Fioravanti sia protagonista mediatico della discussione. Nello specifico, però, nella tua intervista... Sì, sì. Scusa, aspetta, prima di affrontare la questione dell'intervista, perché Fioravanti, che è fuori dal carcere, perché... perché come dire, la pena è finita per Fioravanti, no? Dunque è fuori da carcere non perché l'ha deciso lui, ma perché l'ha deciso lo Stato italiano. Perché non puoi intervenire sulla strage di Bologna? Questa è una cosa che non capisco. Io tu che non sei... posso limitarlo in alcun modo. La mia sensibilità mi fa dire che, poiché ha avuto un beneficio che io definisco incredibile rispetto ai reati commessi per i quali ha avuto sentenza passata in giudicato, preferirei, come dire, un profilo sobrio, diciamo così, riuscire ad andare in radio con te, quindi in una massima trasmissione radiofonica, e affermare quello che ho sentito ieri, francamente mi conferma che è meglio se accetta la strategia del silenzio, diciamo così, perché quello che abbiamo sentito ieri è oggettivamente pazzesco. Sì, lui in realtà ha avuto il merito giornalistico di far confermare di fatto a Fioravanti quelle frasi, perché le ha sostanzialmente confermate. Assolutamente confermate, sì. In più, però, il mio rimprovero a te arriva perché non potevi non sapere che Paolo Bolognesi, che è il presidente dell'associazione delle vittime, ha avuto in quella strage sì la morte della suocera, che era però anche la nonna di suo figlio di 6 anni, che è stato completamente sfigurato ed era in ospedale tra la vita e la morte, tant'è c'è un famoso filmato del TG in cui Pertini esce dicendo: ho visto due bambini che stanno morendo. Uno di quei due bambini è il figlio di Paolo Bolognesi. No, ma il dettaglio non lo ricordavo, questo devo essere sincero. Non è un dettaglio da poco, però, no, però scusami Mario, il problema è una cosa enorme che Fioravanti conosce benissimo. E dunque in quella interlocuzione c'era una malafede profonda. Sì, in interlocuzione c'era un tentativo che io penso, se tu puoi immaginare, insomma, sei un collega intelligente, che uno stragista delle Twin Towers libero, o uno stragista della Atocha, o uno stragista di Monaco 72 libero, possa andare su qualsiasi media internazionale a dire insulti nei confronti dei familiari delle vittime, io credo che questa cosa sarebbe semplicemente inconcepibile. No, no, ma su questo allora guarda Mario, il punto è diverso. Lui naturalmente nega di essere colpevole. Non entriamo in quell'elemento. No, d'accordo, d'accordo. Tutta un'altra pagina. Allora, noi lo abbiamo chiamato a sorpresa, altrimenti concordare sarebbe stato complicato e forse non sarebbe stato nemmeno efficace, perché magari avrebbe tentato, no, una spiegazione di diverso tipo, eccetera eccetera. Dunque, a sorpresa noi lo abbiamo chiamato. Ora, chiamandolo a sorpresa, non è che possiamo fare l'elenco, magari non c'è l'elenco, Giuseppe, dei suoi crimini, l'aspetto del figlio, però l'aspetto. Non puoi dirmi che se il punto è la suocera, non ti informi se Paolo Bolognesi ha avuto una vittima o no in quella strage. Mi sembra il minimo, diciamo così. No, ma proprio il minimo. Ma guarda, ti assicuro, le cose nascono in maniera talmente estemporanea che oggettivamente l'aspetto del figlio di Bolognesi sfigurato, l'aspetto era il figlio, tu mi dici, no? È il figlio di 6 anni. Allora, io essendo padre, insomma, immagino una condizione del genere, cioè farsi dire una cosa del genere da colui che comunque, al di là di tutto, e non apro la polemica, è quello che è condannato con sentenza passata in giudicato per come esecutore materiale, e lì discutevamo del fatto che era stato un mozzicone di sigaretta. Beh, francamente, insomma, io penso che in questa cosa si può pure chiedere scusa, diciamo, stavolta forse era meglio lasciar perdere. No, ma al di là del fatto dell'idea o no, o del fatto che si possa intervistare una persona o meno, secondo me volevo aprire il dibattito sulla strage di Bologna, volevo far confermare quelle frasi. Dopodiché il particolare del figlio di Bolognesi mi mancava, ma le cose nascono. Secondo te il problema è quel particolare? No, ma sei tu che l'hai detto. Le frasi là sono incredibili comunque. Ma certo, ma non c'è dubbio, a prescindere. Io aggiungo questo particolare perché lo conosco bene, ma insomma il dato mi sembra agghiacciante comunque. A prescindere, credo che una certo. reazione diversa rispetto a quella di fargli le congratulazioni inizio intervista. No, quella l'ha fatta, quelle le ha fatte Parenzo. No, non le rivendicherei, Davide. Io pure. Una volta tanto non facciamo varietà, io quelle non le rivendicherei proprio. C'è no, niente guarda, da congratularsi. Però, guarda, zero su questo assoluto da congratularsi. No, però scusami, sono molto serio su questo. Ho ricevuto anch'io decine e decine di messaggi di critica. Mi dispiace che non sia stato appreso, che ho detto semplicemente che al netto di quello che ha commesso questa persona, condannato dalla giustizia italiana, dopo anni questo ha scontato la pena, per me non rimane sempre così, Davide, hai detto congratulazioni per quello che fai oggi senza dire manco che cacchio fosse per la sì. sua... quella cosa francamente direi per la è sua un errore, vita punto. Di oggi basta, mi sono sbagliato per la sua vita di state, oggi allora per la sua... Come ho capito Davide, te l'ho detto ieri in diretta, secondo me all'inizio della trasmissione su una cosa che non c'entra nulla, perché non c'entrava niente la sua attività di adesso, dire complimenti per quello che fai a nessuno tocchi Caino, no, ma non c'entra nulla con quello che è successo, con quello che ha detto. Che no, ma secondo me è un errore. Basta, poi non è che ne faccio una questione di. No, si può dire che è un errore, Davide. Posso dire, guarda, è un errore. Fidati, insomma, fatti. Fai fiducia perché questa cosa è stata vissuta poi dalle persone, noi siamo giornalisti, poi infatti, le persone che lì c'è la carne e c'è il sangue, scusa, è una cosa complicata, non è chiacchiere distintivo, quella è carne e sangue. Lo vuoi l'ospite al mio fianco? Chi è l'ospite al tuo fianco? Dai, forza con questa buffonata. Devi riconoscere la voce, vai, forza con la buffonata, vai in diretta, prego, dica. Sì? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, come va? Beh, io faccio il quiz ora. È il quiz, è Gennaro, chi è? Gennaro. Posso dare degli indizi, posso dare? È Gennaro. No, indizi, no. Romano. Romano. Poi? Mediaset. Romano, Mediaset. Conduttore che... televisivo, insomma. Romano, con... Adinolfi, aiutami tu. Sto faticando, sto andando... Chi è? Mediaset. Enrico Papi, chi è? Bravissimo. Ciao. Grazie. Enrico. Ciao Enrico, come stai? Che fai con Parenzo lì? Con queste... l'ho trovato, veramente l'ho trovato che aveva perso il telefonino per caso. Io ho trovato un telefonino e ho detto di chi è? E lui è mio. Io, allora, capito? Ah, aveva perso il telefonino. Sì, ecco perché no. Ha perso il telefonino, un'opera di beneficenza ho fatto. Cioè, hai fatto un'opera buona, hai consentito la diretta con Parenzo questa sera, una cosa pazzesca, pazzesca. Parenzo è un mito, ragazzi, c'è un personaggio, è qua veramente. Sì. Ma qualche volta lo senti dire le sue sciocchezze qui alla Zanzara o no? Qualche volta, sempre, cioè sempre. Vabbè, va, ripassamelo, va, che dopo facciamo un'intemerata insieme, va. Fatti dare, dagli il telefono, va, che dopo ti becchiamo. Ciao, ciao. Pronto? Eccoci. Ma dove l'hai incontrato? Dove l'hai incontrato il signor Papi? Signor... È una grande esclusiva questa con Enrico Papi, eh? Però poi passo anche la moglie, però non vuol parlare, dice. No, va bene, no. Cioè, rituffiamoci sulla lei vicenda... Cosa pensa della trattativa Stato-mafia? Non lo so, non lo so. Allora ha detto che bisogna andare avanti a scoprire la verità. Ma non è vero, ha detto semplicemente che non lo sai e non gli interessa. No, non lo sai, non lo sai e non gli interessa. Sei pagato dalla CIA tu, eh? Senti, però Mario, ma sì. Intervistare i mostri non dovrebbe essere una cosa normale. Cioè, intervistare uno che può essere considerato per le condanne che ha un mostro. Poi tra l'altro, secondo me, Fioravanti ha detto anche una cosa intelligente. Cioè, ha detto, noi siamo ricordati per una strage di Bologna, per la quale ci sentiamo innocenti, e non veniamo mai ricordati per i tanti omicidi, per i tanti reati che abbiamo commesso. In realtà rubata, diciamo così, perché il dato è, tra l'altro è reale, insomma è vero, per molti Mambro e Fioravanti sono le vittime di un errore giudiziario, punto. Abbastanza problematico. No, vabbè, ma al di là di questo, è vero che sono ricordati per Bologna, non per le tante cose che hanno commesso, omicidi, rapine, gambizzazioni e cose di questo tipo. No, io penso siano stati molto idealizzati da un milieu mediatico che ne ha scritto libri, che li ha esaltati, che ne ha costruito una biografia, come dire, cool, che secondo me è completamente, radicalmente lontana dalla verità della loro storia. Ho capito. E questa cosa, secondo me, ha un peso non irrilevante sul fatto che sia cool intervistarlo, poiché da questo punto di vista mi trovo ad aver studiato molto in maniera molto approfondita quella storia, credo che prima andrebbe raccontata bene la storia, poi parliamo al personaggio. Però detto, diciamo, questo, ti assicuro che noi l'abbiamo intervistato non per farne un personaggio, ma perché abbiamo letto di quelle frasi lì, punto. Potremmo avere commesso dei piccoli errori, tutti li commettono, per carità, però chi ci ha scritto, compreso un tizio non so di dove, di Modena, di non so quale giornale, che ci vuole denunciare all'ordine dei giornalisti, si accomodi, faccia, ci chiami anche, non so come si chiama. Come si chiama, Parenzo, tu che ti ho dato la mail? Come si chiama questo signore? Il nome non me lo ricordo, so che è della Gazzetta di Modena. Si accomodi pure, faccia tutte le denunce che vuole, che ci divertiamo. Faccia tutte le denunce che vuole. Però quando intervistiamo questi personaggi qua, un minimo più di contraddittorio forse la dobbiamo tenere. Ma non c'era contraddittorio perché... in quel caso, non c'era bisogno, tranne quando ha detto che la morte di una suocera è diversa dalla morte di un figlio. Lì gli abbiamo detto, come hai sentito, ma non c'è nessuna differenza, non si può fare una differenza tra la morte di uno e la morte di un altro. Dopodiché il ragionamento era, il signor Bolognesi, presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna, secondo lui ha delle posizioni ideologiche, bastava dire questo. No, ma bastava dire questo. Che è una posizione ideologica. Lui ha teorizzato la differenza tra sentimenti e ideologia. Certo, certo, certo. Assolutamente, è sbagliata. È sbagliata, certo. Ma siamo stati i primi noi a dirlo, però. Posso chiederti... Non era sbagliata in termini, come dire, di valutazione. Era sbagliata nei fatti. Era sbagliata nei fatti. Sì, ma poi, scusa Mario, chi se ne frega dei motivi per cui da cui è ispirato, da cui è ispirato Bolognesi? Il punto non è quello, insomma. Senti una cosa, ma mi è capitato di leggere che tu hai detto qualche giorno fa che un presidente del Consiglio italiano tentò anni fa di sedurmi, ma chi è stato? Questa è una vecchia storia che ti riciccia il povero Klaus Davi, che mi ha fatto un'intervista su tutt'altro, ha mandato di nuovo il comunicato di un'intervista di 3 anni fa, sì, una cosa che se vuoi la ripeto, ma insomma... No, ma perché, ma quando l'ha rimandata? Varietà, ecco, insomma, non no, vabbè, che c'entra, tutto. Adesso sai che siamo alti e bassi. È una cavolata, sì, ho avuto delle avance da un presidente del Consiglio democristiano, come dice anche il titolino per chi ci segue, insomma è una cosa stranota, non è stranoto anche chi è, senza che ne faccio il nome, quindi insomma non... Ma ti ha dato fastidio o lusingato? Mi ha dato molto fastidio, sinceramente. Perché in genere farebbe lusingarti, fatto di piacere comunque, no? Ma che c'è? Mi ha dato molto fastidio, ho trovato una violenza di un potente, in quel momento ho capito molte cose, ero molto giovane, ho capito un po' di cose. Lavoravi a Radio Vaticana? Lavoravo a Radio Vaticana. Ma che tipo di avanza è stata? Scusa, adesso non è che voglio farmi fatti due. Ha preso la mano. Fa fotografia, Giuseppe. Mario, no. È stata una lunga forma di corteggiamento che poi si è trasformata in una sorta di palpeggiamento esplicitissima, in una condizione di grande difficoltà psicologica, perché mi è avvenuta, insomma, non stavo in macchina, c'erano testimoni che avrebbero comunque negato qualsiasi mia... protesta su questa cosa, insomma io l'ho subita con una formazione. Ma non l'hai mai detta prima di quando? Non ho detto nulla, per cui chiacchieriamo di un... No, certo. Ma scusa un attimo, ma non l'hai mai... perché per tanto tempo non hai detto, non hai mai parlato di questo? L'ho detto anni fa, cioè una volta Klaus Davi me lo chiese, parlavamo del fatto, era uscita da qualche parte, credo fosse stato Vendola o non so chi, che aveva detto c'è stato già un presidente del Consiglio gay, io ho confermato questa cosa e ho citato questo episodio, insomma, ma non è che ho mai sognato di mettermi a fare comunicazione su una cosa del genere. No, che c'entra comunicazione? Il presidente del Consiglio no, era... No, che intriga in termini, come dire, comunicativi. Vabbè, lo puoi capire, insomma. No? Cioè, lo capisco perfettamente, però poiché è la quinta volta che la ripeto, insomma, no, io... è usurata anche da quel punto di no, vista. No, io me la ricordo... Anni fa, sì. No, me la ricordo, ma non... Oggi mi è ricapitata, non so perché, qualcuno l'ha ricicciata un'altra volta. Hai fatto un Google delle ultime cose, è uscita questa. Può darsi, no, sì, capito, esatto. Se ti ha messo più in imbarazzo o se ti ha dato fastidio, perché sono due sentimenti. Ma è uguale, dai, vai. No. Gli ha dato fastidio. Comunque il presidente del Consiglio era Emilio Colombo, tanto lo dico io, ma è chiaro che era lui, cioè non c'è bisogno di dire che era gay. Il presidente del Consiglio era Emilio Colombo, appunto, che ci ha provato con Maria Di Nolfi, questo è il fatto, no? È inutile stare diciamo che è avvenuto di peggio, c'è la trattativa, è stato cioè voglio dire, ci sono cose molto esattamente, no? Esattamente, non volevo. Senti, no, invece una cosa, la morte di D'Ambrosio di qualche ora fa, Di Pietro dice di non strumentalizzare, adesso naturalmente non è che possiamo sapere i motivi per cui uno muore di crepacuore, ma ti faccio una domanda diretta, c'è qualche relazione con quello che è successo? Mi pare difficile pensare che non ci sia una relazione. Perché? È evidente, perché è una storia che ha sicuramente costituito un'enorme tensione per Loris D'Ambrosio. Quando si muore di infarto in una condizione di profondo stress non si possono non considerare le cause dello stress, mi sembra una banalità. Cioè gli attacchi subiti da politici, in particolare Di Pietro e altri, e da parte di un giornale, eccetera, sono all'origine, secondo te? Sono all'origine della morte di D'Ambrosio? Si muore di infarto per stress, sono all'origine dello stress. Eccoci qui, 19:16, la Zanzara prosegue, 800 24 00 24. Ci sei? Ci sono e sono molto felice di questa esclusiva che ti ho regalato col signor Papi. Ma non c'è nessuna esclusiva, perché ci siamo detti buonasera. Perché ho lavorato per mesi, diciamo, sì. Ho lavorato per mesi a questa cosa. E hai visto poi che dichiarazioni anche forti ha fatto? Sì, fortissime, certo. Su tutta la vicenda, come? Sì, sulla vicenda. No, falle risentire, sono dichiarazioni... Bomba, dichiarazioni bomba, direi. Bomba, come quelle di Fioravanti, tanto per fare per fare un collegamento, no? Forse anche più dense. Giampaolo da Udine, buonasera, signor Giampaolo da Udine. Anche Giampi, c'è qualche fenomeno su Twitter di cui non faccio il nome? Qualche fenomeno, qualche super fenomeno su Twitter che continua a contestare un'intervista a Fioravanti dicendo non vi siete ricordati che il presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna, bolognese, aveva un figlio coinvolto? No, non ce lo ricordavamo. E allora qual è il problema? Dov'è il problema? Di che stiamo parlando? Cioè, non è di questo che stiamo parlando. Cioè, la frase l'abbiamo condannata comunque, a prescindere dal fatto che fosse coinvolto il figlio o no. Giampaolo da Udine, voglio sentire, prima dei titoli del TG3. Giampaolo. Buonasera, dottor Parenzo. No, mi chiamo Cruciani. Volevo salutare anche Parenzo. Io sono molto contento che avete chiamato ieri a Giusva. Sì. Più avanti, perché anch'io la penso come lui. Secondo me è innocente, con la strage non c'entra assolutamente niente. Ma non è questo l'oggetto dell'intervista? Sì, sono contento dell'intervista. No, non fu questo l'oggetto dell'intervista. Ma non è stato questo l'oggetto dell'intervista? Lei purtroppo ha bevuto. Ma sono contento che qualcuno ha fatto parlare, che lui abbia potuto dire che con la strage di Bologna non c'entra assolutamente niente. Ma non è questo il punto, non è questo il punto, questo l'ha già detto mille volte, lo ha ribadito 40.000 volte. I familiari. Ma la strage, si sa bene che non sono stati loro a metterla, ma è stato lo Stato a farla. I familiari, mi dispiace che l'hanno persi tanti, ma dovrebbero andare a protestare con lo Stato. Si sa chi è stato a mettere quelle bombe? No, veramente non si sa. Se lei... Non è che arriva cioè, dato. Si sa, secondo le sentenze si sa. Sono stragi di Stato. Si sa, come l'ultima di Borsellino, dopo 10 anni è venuta fuori. Sì. Vabbè, lei sta delirando. Tutti i suoi reati, sì. Ha messo tutto quello che ha fatto, meno che quella strage, perché sì. Non è stato né lui né la mamma. Ma non era questo, l'oggetto? Ma non è questo l'oggetto, non voglio intavolare con lei una discussione su chi è stato l'autore della strage di Bologna. Quando uno ascolta, deve anche provare a capire, oltre a far entrare le parole nell'orecchio. Daniela Santanchè dice su Twitter, i PM hanno fatto un altro morto, D'Ambrosio, fermiamoli. Cioè, sostanzialmente... dice i PM, tra cui Ingroia, credo, hanno fatto un altro morto, D'Ambrosio. Mamma mia. Questo dice. Questo dice la Santanchè, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglio. Draghi, BCE pronta a tutto per salvare l'euro, nessuno uscirà dalla moneta unica, spread a picco, borsa in volo Milano oltre il 5%. Sotto sequestro, 6 reparti dell'invalidità, 98 indagati agli arresti domiciliari, migliaia di operai bloccano la città, Clini, la fabbrica non deve chiudere. Morto Loris D'Ambrosio, collaboratore di Napolitano e protagonista delle telefonate con Mancino, Napolitano, su di lui una campagna irresponsabile. Dopo Alfano e Bersani, leader UDC, Cassini a Palazzo Chigi, Monti è tonico e pronto ad una nuova agenda di impegni, possibili modifiche alla spending review. Di Pietro, asse con il movimento di Grillo e Sell, la maggioranza teme i non allineati, Vendola per ora non ci riguarda, polemica sulla legge elettorale. Calcio scommesse, deferito per omessa denuncia all'allenatore della Juve Conte, tentato illecito per Bonucci, rischiano penalizzazioni 5 squadre di Serie A. Domani la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, imponenti misure di sicurezza, sorveglianza a tutto campo, dice Cameron, che punta sui giochi per la ripresa economica. Ancora a casa, la risata di Donna Assunta, vi prego, la risata di Donna Assunta. Fabrizio Rondolino, ex collaboratore di D'Alema, giornalista, sempre su Twitter. Anche Loris D'Ambrosio cade vittima della furia cieca dei PM. È ora di fermare per sempre questi assassini. Signor Rondolino attribuisce ai PM. In realtà D'Ambrosio non è stato criticato da Ingroia, cioè non ha ricevuto nessun avviso di garanzia da parte dei PM, eccetera. Non era... È vero che sono state rivelate le sue telefonate, poi è stato sottoposto ad attacchi da parte di forze politiche, alcune forze politiche, in particolare da parte di alcuni giornali. Certo, dopo le telefonate, dopo le indagini della procura. Diciamo però che il primo, diciamo, anche a sollevare la questione, mi pare essere stato proprio Napolitano, perché quando dice contro di lui si sono scritte e dette delle ingiurie, sì, non dico che non può avvalorare un rinfarto, cioè la tesi di questi politici che adesso strumentalizzano la questione, però il primo forse a porre la cosa dicendo contro di lui ingiurie può anche essere letta così, anche se io detesto questi Santanché, tutti questi che adesso strumentalizzano, fermate i PM assassini, ma non, di fronte alla morte, ma non si vergognano di usare politicamente. Marco dalla Spezia, effettivamente due minuti dopo la morte di D'Ambrosio è stato Napolitano a dire che era stato ingiuriato, eccetera, eccetera. Forse... Dopodiché le parole di Napolitano possono essere lette anche come il ricordo di una persona con cui lui ha lavorato per sì. anni. Marco, allora parli, Marco. Ed è l'unico titolato, secondo me. Dica. Pronto? Sì, tutti sono titolati. Il mio ragionamento è un po' più lungo, sarà molto elaborato. Innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione, lei a Parenzo, quindi è una cosa veramente incredibile. Le dico questo, lei è proprietario di un cane? No. Ma perché? Ha un animale, un gatto, qualcosa? Ho avuto gatti, no, ma adesso non avrei tempo per occuparmene. Allora, perché? Uno Stato, una popolazione che spende 4 miliardi e mezzo in cibo per cani, sì, e non fa una tassa per aiutare i bambini che muoiono di fame. Ma di che sta parlando, scusi? Io sto parlando di questo per arrivare anche al signor Fioravanti. Ah beh, il collegamento è evidente. Una realtà di questo tipo. Il collegamento è evidente. Che pensa un popolo che pensa in questo modo, sì, certamente può permettersi di avere uno stragista oggi in giro e che va in televisione e che uccide i bambini e le persone, sì, e che toglie la vita agli altri perché della sì. sua vita non ha una cognizione ben chiara. Sì. Ecco, questo è quello che oggi l'Italia e il popolo italiano è. Vabbè, Marco, adesso questa mi sembra che lei dia troppa importanza, sia a Fioravanti e non ho ancora capito il collegamento con il cibo dei gatti, Guardi, le dico, no, ma perché questo... Ma qual è il collegamento col cibo dei gatti? Ma di che parla? Questo è la cura, la scarsa attenzione alla vita degli altri. Alla vita degli esseri umani. Ma che c'entra? Ma non è che il fatto che spendiamo dei soldi per il cibo dei gatti, come dice lei, non so dove abbia preso questa cifra, ma sarà sicuramente realistica, non è che significa che ce ne fottiamo della vita degli altri o ce ne fottiamo degli esseri umani e diamo più importanza agli animali. Ma di che stiamo parlando? Ma cosa dice, caro Marco? Un po' troppo contorto, un po' troppo lungo. No, ma è un ragionamento demenziale più che contorto. Ma guarda, può darsi che sia contorto oppure sia troppo difficile. Vabbè, tanto per dire che un assassino non deve parlare, questo lei voleva dire. Un assassino non ha diritto di parlare, io penso il contrario. Grazie Marco. Gerry da Torino. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo dire, mi meraviglia che Ingroia sembra che sia, non so, l'usciere del tribunale. Perché non dite il dottor Ingroia? Vi dimenticate che gente come Ingroia, gente come Scarpinato, è gente che rischia la vita per quella massa di coglioni che sono gli italiani. Questi rischiano la vita. No, però scusi Gerry, non ho capito cosa dovremmo dire ogni volta, il dottor Ingroia, monsignor Scarpinato. Ma nessuno, signor magistrato. Ma chi dice il contrario? A parte che si può criticare tranquillamente l'azione di un magistrato, cioè, senza problemi. Senza però toni derisori a lei. No, io guardi che Ingroia l'ho criticato pochissime volte perché non mi occupo delle indagini in particolare di Ingroia, critico ogni tanto le esternazioni di Ingroia e me lo posso permettere per fortuna, caro Gerry, e sono sicuro di non fare di non fare un attentato a un corpo dello Stato. Come si possono permettere di deferire Scarpinato che ha detto quello che tutti gli italiani onesti pensano e che cioè le autorità fin quando non si scopre chi ha ucciso Borsellino, Falcone e la scorta non dovrebbero avere il pudore di non presentarsi. perché sono solo delle mosse ipocrite. Questa, è un'esternazione politica da parte di Scarpinato, un'esternazione politica, e ne risponderà di fronte al CSM. Naturalmente non succederà nulla, come è evidente, però è un'esternazione politica, io la considero. Non c'è bisogno di fare un'esternazione di questo tipo da parte di una persona che è titolare di un'inchiesta. Bruno da Granero? No, lo dico io, Bruno da Torino. Ah beh, se lo dice lei. No, lo dico io, la mia opinione, se la vuole ascoltare bene, se se ne frega, certo, ha tutto il diritto di fregarsi. Io l'ascolto sempre con piacere. E allora, secondo me ha fatto... Che sì. Prima ascoltavo con piacere Mario Merola, sì. Adesso ascolto le sue sceneggiate e quelle di Palermo. E infatti ci ha pure chiamato per dircelo. Si è pure impegnato a chiamarci, a prendere la linea. Bravo Jerry, bravo. No, ma continui così, a noi ci fa solo piacere. Non c'è... Se mi vuole ascoltare. Ho detto io ascolto con piacere. Prima ascoltavo Mario Merola, adesso ascolto lei. Ma chi è Sacrucciani? Giornalista del Sole 24 Ore. Sentiamo. Jerry? È ancora collegato? Che è successo? Niente. Bruno da Torino. Jerry? Bruno da Torino. Buonasera. Dica. Buonasera. Certo che da Merola alla Zanzara c'è una gran bella differenza, credo. Comunque, io chiamavo per... Forse no, non è che è un grande Merola. No. Vabbè, un grande sì, vabbè, d'accordo, va bene. Però comunque io chiamavo per il discorso di... Ho sentito prima di Nolzi che è intervenuto e... Sono d'accordo con quello che ha detto quasi totalmente. Sono d'accordo anche sul fatto che lei ha perché comunque è intervenuto Fioravanti e perché non ha fatto un cappello di entrata come chiedeva quell'ascoltatore ieri che si è incazzato oltre le righe, però forse in 20 secondi lei riusciva a fare un cappellino d'entrata per poter spiegare a chi non sa chi è quel personaggio. Al di là di quello io sono sempre sconcertato un po' dagli interventi di Parenzo per quello che sono in queste situazioni, quantomeno. Il fatto che, come lei gli ha detto, che ha sbagliato, ma lui non lo ammette. Perché no, veramente stasera l'ho ammesso, un po' l'ho ammesso, ma non è questo il punto. Ma non esageriamo. Io ho detto che se qualcuno si è offeso per quella frase, chiedo scusa in particolare ai parenti delle vittime. Il senso, ma non voglio ripeterlo ancora, era segnare il fatto che questa persona... Pronto? Sì, parla, continua. Questa persona oggi ha pagato per i suoi atroci delitti che gli rimangono sulla coscienza. Qualcuno dice poco? Vabbè, qualcuno ma questo dice si può... poco, ma non sta a no... Sì, posso dire anch'io poco, magari, certo, ma c'è una sentenza della magistratura. Oggi questa persona qui ha detto, gli ha confermato... Va bene, ma voglio chiudere questo argomento. Grazie Bruno. Marco da Milano, buonasera. Io purtroppo lo devo riaprire. Sì, riapra, non c'è problema, riapra. Volevo dire una cosa a Parenzo. Siccome l'ho visto un po' di volte scagliarsi contro qualcuno che a qualche manifestazione aveva la bandiera con la svastica, vorrei che lui mi dicesse, secondo lui, perché, qual è il delitto dello sventolare una svastica. Adesso se mi vuole ascoltare... Ho detto io ascolto con piacere, prima ascoltavo Mario Merola, adesso ascolto lei. Ma chi è Sacrucciani? Giornalista del Sole 24 Ore. Siamo qui, allora eravamo con Marco da Milano. Ecco, io stavo dicendo questa cosa, cioè... rispondo io per Parenzo, no. Magari facciamo prima. Proprio Parenzo, nulla. Rispondere. Proprio per Quindi, nulla. Perché non si può sventolare una svastica? Ma lei può sventolare, per me può sventolare quello che vuole. Non può sventolare proprio che nulla. Lo paga, non lasci rispondere. Non può sventolare proprio nulla perché è un reato in questo paese. Bravo. Esiste una legge che si chiama legge Mancino. Qual è il senso profondo che giustamente sia un reato sventolarla? Ma mi sta facendo delle domande idiote, quella bandiera... No, e lei risponda, se le sono così idiote risponda, ci mette un secondo. Quella bandiera porta con sé 6 milioni di morti, ha capito? Sì, Fioravanti, bravo. È la svastica che voi avete sventolato, questo avete fatto. Ma l'ha sventolata lei la svastica, si vergogna di dire queste stupidaggini. Vergognatevi voi e chiedete scusa. Ma non devo chiedere scusa a nessuno, tantomeno a lei, imbecille. Roberto da Piacenza, chiedere scusa, è pazzo totale. Lui dice abbiamo sventolato la svastica perché ha invitato Fioravanti, ma lo ripeto 100 volte, anzi, senta un po' chi invitiamo adesso, fra poco. Roberto da Piacenza, buonasera. Fra poco le faccio una sorpresa, Roberto. Questo paese veramente... Buonasera. Innanzitutto voglio fare i complimenti perché date un quadro dell'Italia fantastico. Io sono 38 anni, imprenditore, e riuscite almeno a farci ridere facendo vedere l'incapacità dei nostri politici. Comunque, detto questo, io il mio intervento è velocissimo, riguardo il discorso di Fioravanti. Allora, io ho avuto la fortuna, sfortuna nel 94 di assistere a diverse udienze del processo Bologna. Mi aveva colpito, come si dice, il distaccamento, chiamiamolo menefreghismo, di questa persona nei confronti di tutto ciò che mi aveva detto. Allora, io ho massima stima di voi e di quello che fate, perché dico massima ammirazione. Il dovere giornalistico sicuramente è una cosa importante, però sinceramente dal mio punto di vista persone del genere sono persone socialmente inutili. È vero che bisogna sentire tutte le campane. Ma che vuol dire socialmente inutili? Roberto, cosa significa? Non lo abbiamo chiamato per farlo diventare un editorialista, per farlo parlare della politica italiana. Abbiamo chiamato ieri Fioravanti perché ha detto delle cose. Lo volete capire o no? Lo volete capire o no? Perché ha detto delle cose sul signor Bolognesi, presidente dell'Associazione Vittime della Strage di Bologna. Ha detto delle frasi ieri. Lo abbiamo chiamato per capire se queste frasi erano vere o false. Fine. Punto. Fine. No. Non c'è altro. Non c'è altro. Abbiamo fatto, come al solito, quelli che cercano le notizie che stanno sull'attualità. Altrimenti, ascolti un'altra cosa. Intervisto anche i mostri, gli assassini, i terroristi. Non me ne frega niente. Ascolti. Ma non mi fraintenda, io ho massima stima di lei. Ma non è quella, lei non deve avere né stima né disistima. È questa l'operazione che abbiamo fatto, punto e basta. Con qualche piccolo errore, qualche piccola sbavatura, sicuro. Il fatto che non abbiamo elencato tutti i suoi crimini, chi se ne frega. L'operazione era un'altra, non c'entra niente né il riassunto sulla strage di Bologna né il compendio internazionale sul terrorismo italiano. Se lo capisce bene, altrimenti se non lo vuole capire, peggio per lei. Cosa vuole che le dica? No. Protesti. Guardi. E ci denunci, come stanno facendo alcuni, ci denunciassero, magari ci denunciassero. Assolutamente no, non è nel... Non capisco più nulla. Stefano da Bologna, buonasera. Ah, pronto, buonasera. Dica, dica. Io chiedo scusa, ma vorrei sempre parlare riguardo a Giuso Fioravanti, perché io purtroppo ho una cosa che ce l'ho nello stomaco, sì, e visto che sei venuto ieri volevo parlare. Io volevo solo fare una riflessione breve, poi chiudo. Io ritengo che sia scandaloso che una persona che è colpevole di 85 omicidi, perché comunque lui è stato considerato colpevole. Sì, certo, certo. 85 morti, no? 85 omicidi. Che dopo abbia fatto, non so, 20 anni e poi adesso sia libero. Ma ho capito, quello è un altro discorso che ha a che fare con il regime carcerario italiano, con la detenzione, con i premi, eccetera, eccetera. No, infatti io volevo fare questa riflessione, mi sembra scandaloso che una persona che comunque ha commesso, è stata considerata colpevole di 85 omicidi sia... 85 morti, no? 85 omicidi, comunque. Come se io ho 85 persone che mi stanno sulle palle e decido di ucciderle, magari me la cavo con 20 anni, ecco, cioè alla fine se la giustizia è questa... Vabbè, ma questo è un altro discorso però, Stefano, forse non è chiara la cosa, non è chiara. Io sono di Bologna, la cosa di Fioravanti che sia fuori a me secca molto, volevo fare questa riflessione, mi scusi se... No, per carità, ma lei si può indignare per chi vuole. Introduciamo un ospite. Beh, molti di voi avranno qualcosa da dire anche su questo ospite, anche su questo ospite. Lo introduciamo con questa musica. Quale mi dicono la regia? Quale? Abbiamo concordato quale? Tutto. Beh, ogni tanto c'è qualche piccolissimo ritardo. È quella che ti ho segnalato? Sì, ma adesso la mandiamo, non vi preoccupate, la mandiamo. Tramanera, sol con te si fa carriera, tramanera, tu dai la felicità. Se vuoi tu migliorare la posizione. Allora, è con noi Stefano Delle Chiaie, buonasera, detto ai tempi... negli anni 70, negli anni 60, Ercaccola. Ercaccola. Buonasera. Innanzitutto ho sentito la musica e le voglio subito chiarire che non ho mai fatto parte di Trame, né ho fatto carriera. quella canzone evidentemente è destinata più ad altri che a me. Ma non era un riferimento diretto a lei. No, vabbè, Lei conosce sicuramente chi ha scritto questa dato canzone. Dato che introduce, allora volevo appunto chiarire questo. No, ma delle chiaie per carità. Ma no, qui... ma è soltanto una puntualità. Ma lo sa che poi lei è considerato l'uomo delle trame nere, no? Beh, sì. L'uomo dei complotti. Tutti. L'uomo de... No, sono storici... state coinvolte tutte le indagini più... Dagli storici che hanno costruito false versioni, sì, e che si sono dilettati nei salotti a costruire preconcetti nei confronti del sottoscritto e di altri. Ma scusi, lei è stato comunque coinvolto nei processi più non famosi. Sono stato coinvolto, mi Piazza hanno coinvolto Fontana, che è diverso. La strage di Bologna, il golpe borghese, poi ne è sempre uscito. Però, come ha scritto... A proposito della strage di Bologna, non so se lei è al corrente, perché io ho praticamente capito che molti di voi non conoscono i fatti, hanno letto soltanto i libri e hanno trascurato gli atti giudiziari. Sì, ah beh, sì, certo, nel processo anche perché... di Bologna io tutte le veline dei servizi erano rivolte contro di me, sì, e malgrado questo io sono stato associato a coloro che mi avevano accusato, mi spiego? Sì. Quindi un assurdo giudiziario. Sì. Senta, intanto, ma diciamo le faccio una domanda da un milione, questo, da un milione lei... di dollari. Qual è la sua tesi, Stefano Delle Chiaie, ex leader di Avanguardia Nazionale, fondatore, eccetera, eccetera, ex militante del Movimento Sociale, allievo di Julius Evola. Vabbè, altre cose. Ha Qual è la sua tesi su lei? Lei ha una sua tesi su Bologna? No, guardi, io non ho la tesi precostituita perché... No, precostituita, la sua idea. Ma farei come hanno fatto coloro che mi hanno accusato e quindi costruirei soltanto castelli. Io nel libro, L'Aquila e il Condor, che ho scritto, traccio delle ipotesi, non percorse dai inquirenti. Ecco, l'ipotesi, la sua ipotesi principale, non c'è, non abbiamo il tempo per elencarlo. No, non ho una ipotesi principale, la assicuro che non ho ipotesi principale. La sua tesi? Soltanto... praticamente attraverso gli atti visto alcune piste che non sono state battute. Avrei gradito che insieme a quelle dei neri fossero state battute altre piste e che l'ex presidente Cossiga non avesse in un consiglio dei ministri dichiarato e stabilito che dovevano essere i fascisti responsabili della strage. Poi in realtà Cossiga parlò anche dei palestinesi successivamente. Successivamente Cossiga parlò dei palestinesi, eccetera, eccetera. Io ho fatto delle ipotesi, evidentemente, ma per esempio io ho sentito anche per quanto riguarda la Fioravanti Lamando, che tutti ma io sono stato in quel processo, ero in una gabbia e ho sentito il testimone che ha accusato sia Lamambro che Fioravanti, Sparti, che è stato smentito dalla moglie e dalla governante. Secondo lei sono innocenti? Guardi, io che ho partecipato al processo, secondo me non c'entrano niente. Non c'entrano nulla? Non c'entrano nulla. Basterebbe, ripeto, leggersi le deposizioni di Sparti e le deposizioni della moglie e della governante di Sparti e anche le ultime dichiarazioni del figlio recenti. Senta, a lei piacciono in generale le associazioni delle vittime del terrorismo? Certo, io ritengo che sia legittimo. Soltanto dico una cosa, che credo che molti hanno... speculato sui morti, questo soltanto. Molti, in particolare chi? Ma guardi, se lei pensa che ci sono praticamente, non voglio accusare nessuno, soltanto io so che sono stato in processi come quello di Piazza Fontana e di Bologna, dove ho visto un accanimento anche di alcuni avvocati, non di tutti, devo dire la verità, che per anni hanno fatto i difensori delle famiglie delle povere vittime, quindi ritengo che questo sia stato, invece di cercare la verità, si è insistito sulla prevenzione. Senta, lei che è uno che insomma è stato in Sud America, ha conosciuto Pinochet, si pronuncia bene Pinochet, come si dice, è stato in Bolivia, insomma ha avuto una grande passione per i dittatori, diciamo la verità. Io ho avuto una grande passione per i popoli che soffrivano e che alcuni hanno tentato di portare fuori dalle secche dell'imperialismo, è cosa diversa. Però... D'accordo, però erano dittatori o no? Pinochet facevano anche i colpi di Stato. Il signor Pinochet era un dittatore o no? Ma può darsi anche che siano stati... io non credo che la storia abbia dei momenti di transizione. Io non sono stato mai un cultore di questo tipo di Stato, ma sono stato cultore delle lotte che alcuni popoli hanno fatto per liberarsi dall'imperialismo. Sia nordamericano che quello sovietico al tempo. Scusi un attimo, però... dimenticato. Però, Delle Chiaie, diciamo la verità, lei era appassionato di questi uomini forti, insomma era... Guardi, io ero e sono appassionato delle mie idee. No, vabbè, d'accordo. Ancora oggi? Anche perché sfuggo a certe tendenze moderne, quindi praticamente non ho avuto mai passione per gli uomini. Ho avuto ma ancora oggi? Per le idee. Ancora oggi si considera un camerata, un fascista, diciamo? Guardi, io provocatoriamente vorrei dire di sì. Io dico che praticamente le mie radici storiche sono in quella storia. Ritengo che comunque, cioè, lei oggi dice io sono ancora fascista, valori, perché ritengo, non... di essere un fascista. Ritengo che i valori che erano impliciti in quella idea abbiano necessità di nuovi involucri, di nuove risposte a quello che oggi è l'attualità. Vabbè, comunque, perché non dice esplicitamente mi sento ancora fascista? Ma guardi, io non ho nessun problema. Appunto, lo dica chiaramente. No, perché voi date a questa espressione, a questa affermazione, un significato nostalgico che io non ho. No, nostalgico, no. Io credo che alcuni valori che il fascismo in quel momento ha impersonato siano ancora validi e che abbiano bisogno e necessità di nuove risposte all'attualità. Benissimo, ma questo non è stato mai uno statico, ecco. No, questa è una cosa interessante, signor Delle Chiaie. Allora, però io voglio chiedere a Delle Chiaie, vuole attualizzare il pensiero fascista, questo è incredibile. Com'è? È interessante. Secondo Parenzo, lei vuole attualizzare il pensiero fascista. L'ha detto. No, forse non mi sono spiegato, io non ho detto il pensiero, ho detto i valori che erano implici. Per esempio, credo praticamente nella differenza, credo nella gerarchia naturale, non quella praticamente dei militari elettorale, credo praticamente in una economia che sia al servizio della politica e non la politica al servizio dell'economia, cioè credo in alcuni principi fondamentali che furono impliciti nel fascismo. È chiaro che sarei folle se oggi pensassi a una riproduzione a carta carbone o a copia carbone del fascismo. Vabbè, quello nessuno, anche quelli più incalliti. E aggiungo, sì, io come altri della mia generazione non abbiamo mai avuto il culto della dittatura. Abbiamo sempre pensato a un nuovo tipo di organica che prendesse, che prendesse quei valori e li attualizzasse. Però scusi, il fascismo è stato un periodo storico, d'accordo, che io non rinnego e del quale ho fatto parte io, come molti degli italiani che poi hanno cambiato pensiero. Ma se aveva addirittura un ufficio a Santiago del Cile, appunto, cioè, e coinvolto nel regime di Pinochet, mi spieghi che significa aveva addirittura. Io ho conosciuto Pinochet, sono contento di averlo conosciuto, ho rotto con Pinochet quando delle situazioni sono divaricate. Lo considera un grande? Lo considera un grande o no, Pinochet? Fino al periodo in cui perseguiva le stesse mie tesi, poi è stato un grande, cioè, moderato, molto meglio lui di Allende, per esempio. Beh, guardi, io le consiglierei di leggersi meglio la storia di Allende. Forse la storia di Allende è poco conosciuta in Europa. Parli con i cileni e quindi forse i cileni le potranno spiegare molte delle cose. Potranno spiegare, per esempio, quali erano gli scantinati, di cosa erano pieni gli scantinati della casa di Allende. Di che erano pieni? Di ogni ben di Dio. C'era di tutti i beni mentre la gente moriva di fame. Questo però lo deve chiedere ai cileni, non a me. Senta, scusi una cosa, io voglio capire. Ci vorrebbe oggi una cosa in stile Pinochet qui in Italia? Mi dica la verità, no, però. Assolutamente, non credo che sarebbe la soluzione per l'Italia. No, No, quale sarebbe la soluzione per l'Italia? Un uomo forte ci vuole? No, io penso che ci voglia uomini nuovi che non esistono in questo paese in questo momento. Però un uomo forte è inutile che lei insiste sull'uomo forte. L'uomo forte è colui che non si piega di fronte al privilegio e all'offerta di terzi. Questo è l'uomo forte. No, ma ci non vuole un uomo forte, del tipo, insomma, che lei vuole fare. Un regime autoritario in Italia ci vuole, sì o no? No, ci vuole un regime organico, non un autoritario. Che vuol dire organico? Rappresentativo di tutte le categorie del paese. Che alla fine quello era il fascismo, cioè, questo lo dice lei. In nuce, cioè in teoria. Non capisco, evidentemente il fascismo conosce molto poco, perché se lei identifica il fascismo soltanto nella rappresentanza organica delle varie le corporazioni, realtà dai, del paese, evidentemente questo non senta, le che pensa lei di Berlusconi? Ah, io non penso, perché dell'attuale classe politica non mi interessa assolutamente nulla. Nulla, la vota lei? Forse per lei sarebbe spazzata via, forse per lei bisognerebbe spazzarla via. Sono molto distante dalla realtà attuale, sono molto distante da coloro che da una parte e dall'altra lottano in funzione di un mondialismo che io non condivido, non vedo la politica regina del paese, ma vedo l'economia che praticamente guida il paese e quindi in un certo senso manovra la politica, quindi non c'è nulla in questo momento che mi appassioni più di tanto. Possibile che Berlusconi non l'abbia mai appassionato come personaggio? Come? Berlusconi non l'ha mai appassionato come personaggio, Delle Chiaie? A me non mi appassiona nulla, l'ho detto. No, è inutile che lei mi dica, non mi appassiona né lui. E che ne so, io lo chiedo. Dall'altra parte, come si chiama lui, vedo soltanto grigiore intorno a lui. Grigiore. Per chi vota lei? Però è brutto vedere solo grigiore, non avere ottimismo, no? Lo so, lo insomma, io ho 76 anni. Per chi vota lei? Per chi vota delle chiaie? Il mio percorso è vedere grigio è triste, indubbiamente. Non senta, un bel nessuno. Colpetto di Stato, lei che è stato appassionato di colpi di Stato, un bel colpetto di Stato. Guardi, senta, adesso le dico una cosa, appassionato di colpi di Stato non sono solo io, perché io mi ricordo quando a sinistra si inneggiavano i colpi di Stato in Portogallo, in Libia e in altre parti del mondo. E vabbè, mica ho detto... Quindi, dipende dal colore del colpo di Stato, quindi io non sono un appassionato del colpo di Stato. In quel momento, nel 1970, ritenevo che una sterzata di quel tipo potesse servire come inizio della rivoluzione e, oggi? E il mutamento della società. E oggi? Oggi non vedo niente, non vedo assolutamente nulla. Penso, ecco, io le posso dire che io spero che da qui a qualche anno io non ci sarò più, logicamente. Beh, speriamo. Molte più delle tanto energie di questo paese che sono oggi divise, spesso pretestuosamente da slogan più che da idee, si ritrovino insieme e possa da questo sorgere un movimento capace di dare all'Italia e all'Europa il posto che le merita. Senta, delle chiaie, però io le chiedo un'altra cosa. Ma c'erano tra i camerati, no? Gay, omosessuali, l'omosessualità tra i fascisti come veniva vissuta? Questa è una curiosità mia. Guardi, questo è un argomento attuale che all'epoca non veniva nemmeno trattato, quindi non le so dire. Io le posso soltanto dire questo, che non ho problemi verso l'omosessualità se non in termini naturali. Io ritengo che la natura abbia creato un uomo e una donna per altro motivo e non per quello dell'omosessualità, ma per il resto non mi interessa assolutamente nulla. Non mi affascina questo argomento, mi spiego? Non l'affascina. Né praticamente cado nel trabocchetto di fare affermazioni di principio che in questo momento fra l'altro nemmeno sarebbero comprese e sarebbero soltanto strumentalizzate. Ma Grillo le piace? Grillo? Grillo le piace? Ma guardi, la protesta senza risposta mi preoccupa sempre. Cioè io penso che Grillo facilmente oggi interpreti la protesta nel paese che però è molto diffusa. Ma vorrei capire quali sono le soluzioni. Non è rivoluzionario, insomma, questo non è il punto. Lo so, vorrei sapere le soluzioni. Ma chi vota lei oggi? Delle chiaie, chi io vota? Non voto nessuno. Nessuno? No, nemmeno Forza Nuova, questi qua? Ho detto che non voto nessuno, credo di essere stato chiaro. Tra quelli della destra di oggi, no? Anche quelli che sono stati in Alleanza Nazionale, qualcuno che stava con lei all'epoca? Da giovane? Ma non lo so, io stimo, guardi, io no, ma mi hanno rimproverato quando ho presentato il libro L'Aquila del Condor, mi hanno rimproverato di non aver attaccato i gruppi. Io non attacco i gruppi né da una parte né dall'altra. Penso che in questo paese ci siano personaggi, persone, individui che sono degni di stima dall'una e dall'altra parte. Fini e degno, spero, Fini è degno di stima? Che un giorno si ritrovino insieme. Fini è degno di stima? Ma, come? Uno che è stato nel movimento sociale come Fini è degno di stima per lei? Ma io non le faccio nomi, perché sennò le dovrei dire chi stimo se dico quello che non stimo. Grazie. Ma Stefano Delle Chiaie, che dimmi, che c'è, che devi chiedere? No, se oggi avrebbe, lo chiedo a Delle Chiaie, proprio, mi dia una risposta sincerissima, oggi avrebbe senso un nuovo movimento neofascista, ad esempio? Neofascista, avrebbe senso nella fase politica di oggi? Guardi, io sì o no? Credo. No, non credo in un movimento neofascista, anche perché il neofascismo è un'area che io ho abbandonato da tempo. Io credo in un movimento nazionale e rivoluzionario che abbia le idee chiare su quelle che sono le problematiche, soprattutto un movimento rivoluzionario avrebbe senso oggi. Come? Un movimento rivoluzionario, lei dice, oggi avrebbe senso. Certo, la rivoluzione non è necessariamente l'urto frontale e violento, è una trasformazione dell'esistente, quindi si può trasformare l'esistente anche senza quello che lei vorrebbe che io dicessi. Va bene, grazie. Grazie a lei. Gianni da Torino, buonasera. Gianni da Torino. Oh, buonasera. Dica. Volevo farvi complimenti a Parenzo, che mi piace tantissimo, e a lei Cruciani, che la ascolto anche quando parla di calcio. Vabbè. Credo che è molto complesso. Ma ha giocato? Vada avanti, Gianni. Allora, volevo. Sono contentissimo che Berlusconi è sceso di nuovo in campo. Peccato per Alfano, che prima l'ha eletto e poi l'ha trombato. Ha fatto il percorso inverso rispetto alla Nicola Minetti. Giusto? Poi, alla carissima Santanchè, che nel 1961 ha detto quelle belle frasi: non date il voto a Berlusconi perché ci vede solo in modo orizzontale e non ci vede non mai era 91, verticale. Adesso lo difende a spada tratta dicendo che mai era il 2008, era il 2008 che lui faccia certe cose. E l'altro, l'avvocato Pari, che è riuscito a far votare 350 persone, non so quante, facendo credere che l'avvocato, non ho capito, era la nipote, Rubi era la nipote di l'avvocato chi? Non ho capito, avvocato Pari, Pari. Pari. Paniz. Ah, Paniz, Paniz. Paniz. Va bene, Gianni, ho capito, la ringrazio. Piero dalla provincia di Trapani. Buonasera. Dica. A lei, al dottor Panenzo. Io volevo parlare del dottor Ingroia, avendo sentito quel signore di prima che lo incensava. Allora, punto primo, il dottor Ingroia, lui e i suoi amici non fanno la lotta alla mafia, fanno la lotta a chi fa la lotta alla mafia, e le spiego. Allora, intanto voglio precisare una cosa. Non ho capito, dottor scusi, Ingroia non fa la lotta alla mafia, ma fa la lotta a chi combatte la mafia? Sì, a chi combatte? Sì, lo spiego perché. Questo francamente mi sembra un po' complicato. No, io lo spiego. Intanto, un piccolo inciso, per capire le capacità di Ingroia. Questa è l'unico, nei tanti processi di Rina, che gli ho intentato un processo, sì. Piero, la sto per cassare, se lei non va al sodo in due secondi, la sto per cassare, me lo dica subito. Cioè, se lei mi vuole fare il riassunto dei processi di Ingroia per dimostrarmi che lui combatte chi combatte la mafia, la casso in due secondi. Allora, vi faccio subito l'esempio. Allora, il procuratore Grasso, bruciato già dalla cattura di Rina, che si sono messi a parlare poi di documenti scomparsi, loro hanno ripreso tutto in maniera tale che non gli potesse inventare di nuovo processi come è successo. Va bene, la ringrazio. Alessio da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Volevo dire una cosa riguardo il discorso della morte di un figlio, della suocera. Insomma, se tutto il problema deve essere, lui ha detto che la morte della suocera non è paragonabile, cioè non è paragonabile a quella del figlio, io sono d'accordo, mi dispiace, perché devo essere sincero, mi dispiace, però sono d'accordo. Insomma. È una stupidaggine questa, Alessio, è una stupidaggine, devo dire la verità, è una stupidaggine, anche perché oggi abbiamo appreso che in realtà era coinvolto anche il figlio di Bolognesi, primis. Ma al di là di questo, cosa c'entra il dolore, i sentimenti possono essere gli stessi anche se... Beh, io credo ci sia un problema se uno soffre alla solita maniera per la morte della suocera, per la morte di un figlio. Sì. Poi mi sbaglio, senza dubbio dico stupidaggine, non lo metto in dubbio. No, ma è una stupidaggine, perché comunque non capisco perché uno può essere animato, diceva Fioravanti, da ideologia in quanto secondo lui non sarebbe mosso dai sentimenti nei confronti della suocera, perché la suocera è morta dopo, la suocera è lontana, cioè tutto un argomento un po' pretestuoso. Federico da Milano. Sì, buonasera. Io chiamavo non specificamente sull'argomento, ma semplicemente per dire che io sono molto contento che voi diate voce a argomenti scomodi o facciate per parlare. Ma noi non diamo, voce a argomenti scomodi. No. Abbiamo chiamato Fioravanti, al volo senza avvertirlo, per parlare di una cosa in particolare, non di tutto l'universo mondo che riguarda Fioravanti. È chiaro, sì o no? Chiarissimo, e per di più state svegliando dal torpore, perché uno se no si addormenta, non affronta mai degli argomenti di ma veramente tipo. Se lei si addormenta mi dispiace, noi cerchiamo di non farla addormentare. Comunque poi tutto qua, vi ringrazio, rispetto a quelli che invece vi insultano io invece vi ringrazio. Alberto da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. E niente, volevo dire che ho avuto motivi tante volte di criticare la trasmissione, però una volta che fate giornalismo vero senza arrivare critiche da tutte le parti, quando invece secondo me è stato un bel servizio e anche venuto bene, e poi l'impressione è che tra i tanti alla fine il meno fascista sembrava proprio Fioravanti. Non è male come cosa questa qua, Alberto, il meno fascista sembrava Fioravanti, sì, un po' darsi. Certo, hai visto le critiche che sono arrivate, attaccate senza entrare nel merito di quello che gli era stato chiesto. Sì, no, ma Alberto, per carità, ma è una giusta considerazione. Non è una considerazione peregrina, cioè rispetto agli attacchi frontali ricevuti in queste ore e anche gli attacchi a Fioravanti stesso, forse è più tollerante Fioravanti. Alberto, vuole aggiungere qualcosa? No, tutto qui. Francesco da Como, allora, con chi eravamo prima. C'è un ospite. Chi è l'ospite? Chi è lo? Mi riconosce dalla voce, però. Aspetta, aspetta, ripassa, passami l'ospite. Francesco, un attimo. Dalla voce. Pronto. Una cosa pazzesca. Stai facendo il tour d'Italia per presentare il tuo libro sul Vaticano. Leggo ogni tanto dei Twitter, ti sei in Sardegna. Sono un apolide senza fissa dimora. Ma tua moglie che dice? Non t'ha cacciato ancora? No, mi ha messo un'antenna, praticamente una micro telecamera. Per controllarti meglio. I movimenti, ma ha ragione. Adesso siamo nella cornice ponzese. Lo so. Inizia la nostra rassegna letteraria. Lo so. Una cosa dove non ci sono politici. Meno male. Ci sono io però che vengo sabato. Ah, tu vieni? Io vengo. Quindi confermato. Non lo sapevi, vedi? Non lo sapevi. Ho fatto finta di non saperlo. Gianluca, ma questa morte improvvisa? La morte, il mistero della morte di D'Ambrosio, Loris D'Ambrosio. No, non ci sarà mica un mistero pure su questo, no? Beh, non può non esserci. Tu dici? Beh, ma siamo in Italia. Siamo in Italia. Non può esserci mistero. Adesso ci sarà la storia. È stato il maggiordomo. Adesso non si può ridere sulla morte di D'Ambrosio, dai, su. No, cioè, io non rido sulla morte, dico che... Hai detto che sarà stato il maggiordomo, l'hai messa subito... L'hai messa subito in battuta, come no? L'ho messa in giallo. E che gli ha messo una pillolina, non ho capito. No, dai, io? Su, non si può... No, il maggiordomo, dai. Non si può però... scherzare su tutto, dai. Almeno non a caldo, no? Però, insomma, è un... Qualcuno dice che è lo stress provocato dalle critiche. Io devo dire la verità, quando qualcuno comincia a parlare facendo il cardiologo, il medico cardiologo, o comunque, sai, uno muore di infarto, possono esserci mille motivi, non è mica detto che sia lo stress per gli attacchi subiti. Pietro, direi che secondo me, per dare il nome e cognome di quello che stai dicendo, secondo me è un po' esagerato, perché dice non strumentalizzazione da una parte, però dall'altra parte dice di non, cioè fa, no? un po' troppo, forse un po' troppo. E Gasparri, scomparsa con la strumentalizzazione, sì, scomparsa condizionata da recenti eventi. Gasparri, naturalmente, infatti, signor Gasparri, però io faccio una domanda, sì, posso fartela? Sì. Ma secondo te, sì, le organizzazioni criminali che secondo Banca Italia riciclano e fanno il 10% del PIL in Italia, sì, ma veramente pensiamo che non ci siano trattative con settori delle istituzioni? Cioè, pensiamo veramente che questa maxi azienda, questa holding, altro che SPA, questa holding non abbia dei corridoi, che ha in mano il 10% del nostro PIL, secondo la banca nostra centrale? Sì, sì. Non so se ce l'avessero il 10% anche all'epoca della famosa trattativa, comunque. Beh, però. Beh, era una mafia diversa, era una mafia diversa. Numeri importanti. Ma te, tu sei appassionato della trattativa Stato-mafia o no? Mi appassiona. Io leggo in genere un articolo ogni 2 anni su questa trattativa e trovo che c'è un'evoluzione. Cioè, per esempio, che il signor Franco, dopo 2 anni, si scopre, il famoso uomo delle trattative, si scopre che aveva un cellulare 337, sì, un TAC. Ecco, prima, 2 anni fa, questo non si sapeva. Cioè, l'evoluzione di questa indagine è lenta, ma questo. Non darei la colpa ai magistrati di Bari, ma darei la colpa a chi ha una memoria a singhiozzi, cioè a volte ricorda, a volte non ricorda. Proviamo a chiamare Villa Wanda, la casa del signor Gelli, dato che siamo veramente in questo tema. Sì, chiamiamo il signor Gelli. Ma rimango in attesa? Sì, rimani in attesa, gli vogliamo fare qualche domanda sul mozzicone di sigaretta che avrebbe provocato la strage di Bologna. Licio Gelli, aspetta, è Villa Wanda. Villa Wanda, ieri sera hanno risposto, ha risposto direttamente. No, ma ieri sera ha risposto lui dicendo chiamatemi domani mattina alle 10, solo che noi alle 10 dormivamo. Bischeri della Zanzara, l'ha detto. No, che bischeri, abbiamo chiamato Gelli, buonasera, eccoci qui, ce l'hanno passato, poi sto con delle persone. Perché c'è sempre gente che va a trovarlo. Sì, a Villa Wanda c'è sempre gente là. Sì, ma non sono novantenni come lui, gente magari di 70. Villa Wanda. Grazie a Gianluigi, a presto. Villa Wanda non risponde. Marcello da Bologna, buonasera, signor Marcello. Gianni, lei è proprio un pirla, è un emerito, sì. Cioè, lei è tecnicamente un coglione, tecnicamente. Sì. Certo, cioè, non c'è dubbio. Allora, come si fa a invitare Fioravanti? Lei me lo deve spiegare. Cioè, io vorrei sapere, su ironizzato... Ma l'ho spiegato in mille modi. No, se vuole glielo rispiego, faccio anche i disegni. Io ho scritto sindacato. Faccio i disegni. Perché io voglio che questa trasmissione si chiuda domani. Sì, domani. suo nonno. Però chiudete, sì. Chiudete, sì. Perché voi non potete, questo, qua ci sono gli estremi. Vabbè, ma lei sta scherzando, su. Lei sta scherzando, su. No, no, no. Lei sta scherzando, sta ridendo, sta ridendo. No, sta ridendo, no, sta ridendo. Si chiude, la trasmissione si chiude. Adesso avete Milan, che è molto bravo, serio, professionale. Viene lui. Ma questo è Charlie Gnocchi, Guardi, io chiamo anche il capo dello Stato. Non me ne frega, io chiamo, manderò un'email, non me ne frega. Perché io sto parlando seriamente. Lei ha una responsabilità. Lei è Charlie Gnocchi, lei è Charlie Gnocchi. Non ce l'ha, lei ce l'ha. Lei è Charlie Gnocchi. Sono Charlie a me, Gnocchi, non mi cogliona, perché sì. Non sono come quelli che chiamano. Io mi faccio portavoce di tutti sì. I radio, diciamo, gli ascoltatori e porto avanti questa causa. Non mi interessa. Ma lei ha la voce uguale a Charlie Gnocchi, un po' simile a Charlie. No, non è lui. Però, non è. Zero. Zero, sotto zero, no? Zero, sotto zero. No, ma lei parla a 2 milioni di ascoltatori e parla con un assassino e dice boiate, perché poi raccontate boiate, perché cioè, ci fosse uno spessore culturale in quello che dite. Poi è tutta pilotata, perché lei è prono, dopo lei si incazza, ma lei si incazza, ah, lei mi dà del servo, lo so benissimo, si incazza, lo so, però è vero. Ma è vero cosa? Lei lavora agli ordini di determinati editori. E quali sarebbero? Che ha messo lei stesso chi vota, quindi ma non ha mica niente da nascondere. Ma chi sarebbero questi editori? E lei, secondo me, anche tutta questa polemica sui gay che fa il finto tonto, perché i gay, la libertà, lei è tutta pilotata, gliel'ha detto un ascoltatore, l'ha cassato, ma a me non mi caccia, chiama l'ambulanza, le cose, è la verità, perché tutta questa cosa è pilotata, perché? Perché lei sa bene che queste tematiche fanno, comunque sia, si rifanno su una certa parte politica, e le tira fuori dal cilindro, come Maga Magò. Poi voglio dire, cioè, ecco, lei, gli ascoltatori, non gli dà rispetto. Lei deve portare rispetto. Marcello, lei è un comico meraviglioso, la tengo in linea se vuole. Antonio. Lei deve portare rispetto alla gente. Lei non porta rispetto, lei offende le persone. Antonio, non so da dove. Ha capito? Offende Possiamo la gente. Richiamarvi Lavanda? Adesso richiamiamo. Francesco, d'accordo. Offende la gente, deve portare rispetto. Pronto? Francesco, dica. Aspetti, Marcello. Sì, buonasera. Sì. Posso parlare? Sì, Francesco, parli. Ah, salve, buonasera. Senta. Io volevo dire soltanto questo, che lei ha detto che ha chiamato Fioravanti per parlare in un determinato discorso e per sentire cosa aveva da dire su quel discorso. Sì. Però sinceramente parlando, cosa si aspettava che dicesse un pluriomicida, un terrorista, una persona che ha ammazzato la gente, che non ha avuto rispetto della vita? Che ha detto le solite cazzate, che faceva negli anni 70. No, veramente non ha parlato di questo. Non ha parlato di questo. Rispetto della vita. Lei non ha parlato di questo? Non ha parlato di questo? Lui dicendo che una vita valeva più dell'altra, una perdita valeva più dell'altra, ha continuato ad avere quel poco rispetto della vita altrui che aveva prima. Beh, vabbè, questa è la sua idea. Io adesso dico una cosa orrenda. Dica una cosa orrenda, si la dica, che ci piace. Secondo me un terrorista pluriomicida meriterebbe di non poter più parlare in pubblico, di non avere più la libertà di parola, secondo me. Però, vabbè, ma comunque... insomma, va bene. Vabbè, buonasera. Mi mandate l'ambulanza così tanto no, per... No, non c'è bisogno di mandare l'ambulanza. È riservata ad altri, ma Francesco. Ma fare il culo così... senza motivo. Ma perché? Ma lei è masochista, scusi? No, era così, era bello, era divertente. Beh, scusi, non è a comando, Comunque è vero, è una cosa orrenda, ma secondo me un pluriomicida... Non deve parlare. Non dovrebbe più parlare. Spero che lei si indigni anche per altre situazioni. Per me possono parlare tutti. No, vabbè, guardi, no, io ho scritto... Francesco, a me i terroristi, come è evidente da quello che ho scritto, mi fanno schifo di tutti i colori, no, sì, ovvio, rossi, neri, eccetera. Dopodiché possono parlare come e dove vogliono. Invece, secondo me no, perché... hanno dimostrato con la loro vita, le loro azioni, quel pochissimo rispetto degli altri, o nullo, totalmente nullo, che a un certo punto non dovrebbero... Ma le posso dire di più? Spero che non si arrabbi, lei e molti altri. Inutile che sto cappello che dobbiamo fare tutte le volte, perché contro la violenza, cioè già questo è inutile. Dire condanniamo il terrorismo nero è talmente... Però si ricorda, Parenzo, lei quando è stato invitato... Quella specie di filosofo che parlava del nazismo contro gli ebrei. Signora, come lei si incazzò e non lo fece perché parlare. Perché lo rivendicava oggi. Perché quel professore persona, nazista appunto, ma perché oggi una dice che quelle cose. Fioravanti, mamma mia, Fioravanti non è più l'uomo, ha commesso dei crimini atroci, ha pagato, il mio giudizio su di lui rimane lo stesso, cioè di una persona che ha ucciso. Oggi, e non si arrabbi lei e molti altri, lo ripeto, e dico un concetto nuovo, Fioravanti lavora per un'associazione contro la pena di morte del mondo, e lui che ha dato la morte, perché lui è un uomo che ha dato la morte, oggi lavora per un'associazione contro la pena di morte. Vabbè. Questa è la democrazia, la vittoria dello Stato. Ecco il senso del mio discorso di ieri. Va Ha capito? Sì. 20:11 traffico. Marcello, c'è ancora? Non se ne può più. Marcello? Faccio un appello a Squinzi. Vi devo mandare a casa. Ma anche l'ordine dei medici. Faccio un appello a Squinzi. Anche l'ordine dei medici, perché queste ambulanze qui non va mica bene. Faccio un appello a Squinzi. Prima un appello a Squinzi. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, di chi sta male. Le ambulanze, chi sta, sì. Di chi sta male davvero. No, ma stiamo scherzando. Però faccio un appello a Squinzi, Marcello. Ma io comunque sia, guardi che ho già spedito le email. Io sto facendo veramente sul serio. Cioè, qua è una cosa scandalosa. Questa trasmissione è ridicola. Cioè, allora prendete una bella figa, la mettete lì, fate più ascolti. Cioè, se va bene così, funziona, come dice Parenzo, funziona o non funziona? Allora, peccato dai, che non si vede, peccato che non si vede. Radio. La bella figa non si vede, però. Facciamo un nightclub, così funziona, no? Antonio da Prato, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, come state? Bene, bene, dica. Senta, io volevo un po' stemperare questa tensione più avanti, eccetera, no? Cioè l'altra sera, ora, però non comincio a tacciarmi di moralista o di insomma, anche perché non c'ho 80 anni. Beh, non è che per essere moralisti bisogna avere per forza 80 anni, eh? No, ha ragione, scusi, allora facciamo. No, perché allora posso esprimere il mio concetto in modo asettico. L'altra sera avevate Corona, bene, che anche lui l'avete adulato, l'avete. Addirittura lei a un certo punto ha detto sei un mito, no? Cioè. No, io ho detto sei un mito per qualcuno, per qualcuno, non per me, per qualcuno. Se i giovani che ascoltano la trasmissione sentono il Corona è un mito. Ma ho detto è un mito per qualcuno ed è innegabile che sia così, è stato, ora, è stato. Ma che l'età media dei vostri ascoltatori è alta, perché sennò non. Ma Antonio, ma il suo ragionamento è tarato in partenza, nel senso che io non ho mai detto che è un mito, ho detto per una parte di persone, che magari prima era più consistente, adesso si è ridotta, forse, non lo so, sicuramente Corona è un mito, altrimenti non si farebbero le magliette. Cioè, della gente lo aspettava sotto contrasto, però se lo riascolti un attimo l'avete un po' così, l'avete adulato come. Ma adulato cosa? Ma ci giochiamo, ma che dobbiamo fare? Impiccarlo? Che dobbiamo fare? Ma no, ma è un personaggio assurdo. Ma questo lo dice lei che è un personaggio assurdo. Ma che ce ne facciamo di Corona? Ma l'avete vista Videocracy? Cioè, ma che cosa ce ne facciamo? Ma perché ma perché lei se ne deve fare qualcosa? Non si può fare i cazzi suoi lei? Cioè, non ho capito, perché ce ne dobbiamo fare qualcosa di Corona? No, mi spieghi, cioè perché si deve interessare? Perché lei si deve interessare di Corona? Non ho capito. Non zanzarato. No, scusi, Antonio, Corona è un personaggio che di riffo o di raffa, per un certo tipo di ambiente, per certe cose, fa notizia. Fa notizia, è uno che comunque fa notizia. Che a lei, che a lei piaccia o no, fa notizia. Ma se lei dice te sei un mito, è chiaro. Ma che non l'ho detto, sei un mito per me, sei un mito per una serie di persone. Cioè, insomma, Cianil, però lei se le rigira come gli pare. Scusi, a parte insomma, che io non ho nessun mito. Forse qualcuno sì, la Thatcher. Cioè, avevo un mito quando ero ragazzino, avevo il mito della Thatcher. No, anche Mussolini. Forse, no, mai avuto, guardi, le posso assicurare. Forse ce l'ha lei il mito di Mussolini, io no. Cioè, No, io no, assolutamente. Senta, posso dirle un'ultimissima cosa? Tempo fa ho chiamato, quando c'era Italia-Croazia, c'era Mastella, no? E praticamente vi dissi, stasera c'avete Mastella perché non vi ascolta nessuno, lui si incazzò. Chi ho incontrato il giorno successivo a Roma? Mastella, voi portate sfiga. Ma gliel'ha detto, gliel'ha ricordato? No, non è stato possibile avvicinarlo, c'aveva due fistoni e non. Peccato. No, volevo chiedergli scusa, nel senso ma non c'era bisogno di chiedere scusa, non c'è avevo problema. Intenzione. Marcello, che dice lei? Cioè, lei Cruciani, lei deve fare outing. Lei faccia outing? Ma su che cosa? Sull'omosessualità. Ma quale omosessualità? Allora, lei è profondamente, non si vede dalla faccia, è omosessuale. Lei ma dice? No, qualche ascoltatore. No, assolutamente. Faccia outing. Se no non fa queste battaglie. No. Tanto Parenzo si sa che lo è, quindi è inutile che dica sì, no, bimbombando. Come ha detto? Si sa già che è omosessuale, Parenzo. Può ripeterlo un attimo che ho da estinguere un mutuo ristrutturazione? Può ripeterlo? Lei si vede che è omosessuale, basta guardare in faccia. Lo sa che adesso la Cassazione... Lo sai, io che non riconosco se uno omosessuale o no, si capisce. Adesso la Cassazione, ha detto che non si può dire a qualcuno che sia omosessuale, altrimenti. Ma quereli, chi se ne frega, tanto alla fine. È cambiata trasmissione. C'è un altro conduttore. Grande. Daniele, chi è? Marcello? Bravo, bravo. No, ma a casa, ragazzi, a casa. Voi andate a casa subito. Io sono sicuro, perché sono sicuro che anche l'ordine dei giornalisti, con quello che ha fatto con Farina, cioè, è quello il minimo. Cioè, lei va a casa, perché voglio dire, non esiste. Cioè, lei ha un ruolo culturale. Ma chi lei è non questo? Può dire io faccio ascolti e basta, me ne fotto. Allora facciamo il film porno alle 8 in prima serata su Rai 1. Fatto. Ma io faccio 50 milioni di ascoltatori. Lei dice, lei dice. Sì, tanto lei è disposta a tutto, lei è disposta a tutto. Lei invita anche, tanto l'ha invitata anche le pornostar candidate, disposto a tutto. Vabbè, certo. Lei per il Dio audience farebbe di tutto. Si spoglierebbe anche nudo. Beh, no, è la radio questa qua, è difficile. Sì, ma nel senso, sì, no, c'è anche la televisione, perché adesso avete fatto la manina con Mediaset, tanto si sa già che avete la scialuppa di salvataggio, io lo so già, e lei l'ha ammesso, implicitamente l'ha ammesso, ha detto, ah, non si sa, più avanti, come dire, si cazzano a pedate, tanto è vero che questa trasmissione non ha alcun senso di stare su Radio 24, ma perlomeno, perlomeno, ma perché non c'entra assolutamente un cazzo. Allora, sentiamo, resti lì, resti perché lì. È simpatico, perché poi almeno telefona e rimane lì, cioè dice non serve, ma rimane e continua a insultare. No, serve, serve. Giorgio deve... Ah, non serve la trasmissione, dice. No, è divertente lui che dice non serve, sì. E intanto rimane a parlare mezz'ora. Giorgio da Lecce, Giorgio da Lecce. Riproviamo con Villavanda però, Sì, sì. Villavanda. Sì. Villavanda, intanto Giorgio da Lecce, dica. Sì. Con Villavanda. Buonasera, dottor Cruciani. Io chiamo per fare semplicemente un'osservazione sul suo modo di condurre la trasmissione. A parte... Un attimo. Un attimo. Vado io? Sì, sì, vai tu. Se risponde qualcuno, perché sai... No, venerabile. No, perché ieri va a sta riunione? Sta riunione va a venerabile ieri. Soggelli, con Licio Gelli. Giorgio? Buonasera, dottor Cruciani. Vada lei, sì. L'ha già detto, buonasera. Sì, allora, no, niente, io le volevo fare una piccola osservazione sul suo modo di condurre la trasmissione. Sì, pratica, sì. In pratica, lei alcune telefonate le taglia via subito, anche se hanno un apparente interessamento ad essere concluse, mentre da alcuni altri radioascoltatori come quello che ha tenuto in linea sino adesso, che la sta continuamente insultando, sì, che andrebbe tagliato subito adesso perché sta dicendo delle coglionate e deve essere... Ma veramente non va tagliato per nulla. Ma comunque, se uno va tagliato, non lo decido io. Forse non ha capito bene, cioè non c'è una non c'è democrazia qua. Non penso, no, ce n'è tanta di democrazia. No, ma non c'è in queste cose, non esiste democrazia, esiste una decisione presa in maniera drastica, da un unico dittatore che è il sottoscritto. Esatto. E io questo volevo farle notare. E che voleva far notare? Che dovrebbe mettere un pochino più di democrazia, non di... Ma non è possibile. Non è possibile. Cioè, non è che si può fare un'assemblea e diciamo mettiamo i voti se questo ascoltatore lo tagliamo o no. Non è un'assemblea. Sì, l'assemblea questo, dice, allora... questo è in dubbio che lei lo può fare e lo deve fare. Però non è non è coerente che alcune telefonate insignificanti come quello che sta lasciando lì in linea viene trattenuto a dire cavolate sino a quando vuole, mentre altre telefonate vengono subito sfumate senza lasciar concludere il loro concetto. Dove si trova lei? Io a Lecce. Lecce, Tutto a posto a Lecce, sì, ci sono strutture adatte, sì. Strutture per accogliere chi non sani di mente? Esatto, bravo Giorgio, vedo che ha afferrato subito. Ci sono strutture adatte, posti letto disponibili? C'era l'Opis, una volta c'era l'Opis, noi quando marinavamo la scuola andavamo lungo i cancelli per divertirci a vedere queste persone fare cose assurde, eccetera. Adesso lo hanno chiuso però Lecce è pieno adesso, ecco, di gente che dovrebbe essere rinchiusa. Ecco. Ce ne siamo accorti. Caro Giorgio, grazie, grazie. Marcello, dice? Io sto fonderò un movimento a tutela appunto di questi ascoltatori che chiamano i poverini, dopo voi li cassate perché non sanno parlare, anche questo signore. Io mi vergognerei se fossi lei, Cruciali, mi vergognerei profondamente. Come si permette di mandare le ambulanze così alla gente? Ma lei sa quando uno chiama l'ambulanza che sta male e chiama un'ambulanza? Sì, lo so, ma ci hanno anche rimproverato per questo, però ce ne fottiamo noi. Ma questa è una cosa gravissima che lei fa continuamente. Ma me ne fotto! Ma lei e io ho degli amici medici. Un attimo solo, Marcello. Ma cos'è l'ironia? No. Pronto? Pedrini? Come, scusi? Pedrini? No, ho sbagliato il numero. Scusi. Ci parla? Ha sbagliato il numero. Sì, no, ma ci parla? Pronto? Marcello, allora? Che no, stava ma dicendo? Voglio dire, se poi lei lavora per Mediaset, cioè alla fine, non lo so, anche, sì, anche il suo amichetto lì, chissà perché adesso scrive sul Panorama, chissà perché, ma guarda te, ma guarda un po' che coincidenza, e allora? La roba, guardi, è scandaloso, cioè, e allora scandaloso. Che c'è di scandaloso? Se la prende la calci nel sedere, c'è anche uno che invita Sabina Vegan, che si sa che è una che fa qualcosina, ma anche dell'altra. No, ma lo dica esplicitamente, non si tira indietro. Ma sono della gente squalida, l'invitate solo voi, non va da nessuna parte, solo voi, perché voi siete disposti a tutto per fare audience, disposti a tutto. A tutto, siete disposti a tutto, e per quello io sono indignato, profondamente indignato. Ma non la sento indignato. Di rispetto che lei usa continuamente. Ma non la sento indignato, però, Marcello, non è veramente indignato. Guardi che io sto prendendo provvedimenti seri, lei non lo sa. Ma lei non può prendere che tanto vi cacciano, perché Napolitano, che è il direttore del Sole 24 Ore... No, veramente si chiama Napolitano, no, Napolitano quello è il Presidente della Repubblica, no, vorrei informare. C'è anche il Presidente del Sole 24 Ore, il direttore del Sole 24 Ma Ore. Ma si chiama Napoletano, non Napolitano. Ah, scusi, perché lei non le fa mai le gaffe, ogni volta di Europa fa delle gastronate, dice fischi per piatti, poi chiede scusa, lasciamo stare, va là. Ecco, cioè, per fare un esempio, io so che è una persona lungimirante, ha una visione lungimirante. Ma come chi? La Chi ha la visione lungimirante? Il direttore di Napoletano, sì, allora? E anche il vice direttore, che ha sicuramente delle idee molto serie, l'ho sentito, sì, parlare molte ma volte. Ma che ne sa lei? Serie. Sicuramente vi manda a casa, tanto voi andate a casa, andate a casa, è il vostro destino. Non me ne fotte un cavolo, a parte che gli ascolti sono in discesa picchiata dura. Ma che ne sa? Oh, c'è Forbice che vi batte 100-0, ragazzi. Ma non c'è neanche più. Ma non c'è più Forbice. Vi ammazza, ma però, non c'è più verità. A settembre, mamma, a parte che io chiamo Forbici, mi fa parlare, si può argomentare, lei no, lei spinge il bottone, ma fa signor tutologo come Mussolini, poi grande che è di destra, di dov'è uno che ragiona così, lei fa il dittatore. Scusi. E tanto l'appoggia, mi meraviglio di uno che è di grande sinistra, esperto che di media, scusi professore, grande esperto di media, mi scusi, soltanto una domanda. Ma lei, tutte queste stronzate, dove le ha lette? Gli ascolti? Ascolto lei. Ma ce l'ho io la sua fonte. Ma dove la trova un'altra trasmissione che la fa parlare per mezz'ora e la fa inveire contro il direttorissimo e contro il comandante in seconda? Tanto qua vale solo la gazzarra. Qua se uno si veste in camicia non va bene, deve toglierla. Se una donna si mette le mutande non va bene, deve fare lo spogliarello. Qua funziona così, l'ha detto Cruciani, è la sua morale. La sua morale è quella, non si preoccupi. Fermo lì, Alberto, stia lì. La religione dell'insulto e basta. Stia lì, Alberto da Roma, buonasera. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Mi sente? Sì. La sento. Io le volevo fare solamente una domanda. Sì. Se il signor Ferravanti, io non glielo auguro mai, per carità, avesse ucciso, non lo so, una persona a lei tanto cara, lei avrebbe intervistato lo stesso? Questa è una stronzata, Alberto. Questa è una cretinata grossa come una casa. Che sto dicendo. È una cretinata enorme. È una cretinata pazzesca, una cretinata enorme, enorme. Sarò cretino. No, io ho detto, non è che uno che dice una cretinata è cretino, cioè non lo so, perché non mi sono mai trovato in una situazione del genere, dunque non glielo posso dire. Come faccio a risponderle? Ma come faccio a rispondere a una cosa del genere? La domanda che è stupida, cretina, imbarazzante. Mi imbarazzo per lei. Sono imbarazzato per lei. Francamente sono imbarazzato per lei. Sono imbarazzato per lei. Posso permettermi di essere imbarazzato per lei? Come no, per carità. E allora, io sono sicuro che lei non l'avrebbe intervistato. E vabbè, lei è sicuro di questo? Io non lo so. Vedo un po'. Perciò penso di capire quelli che gli dicono che non sono d'accordo che ha intervistato. Va bene. Tutto là. Eccoci qui, 800 24 00 24. Ancora Marcello per un attimo. Marcello, mi sente? Luciani, ma non l'hanno ancora chiusa? No, ancora no, ancora siamo qui. Ai minuti contati. Addirittura. C'è stato uno che fa il corteggiatore sulla spiaggia di Rimini, ma dai, Luciani. Dici? Ma lei come è messo? Ma lei ragiona? Beh sì, certo. Ma io ci credo che è divorziato. Io so perché è divorziato, che sua moglie le avrà detto, ma... Vabbè, adesso... Beh, amore mio, ciao. Adesso sta un po' esagerando, meglio che torni dentro la gabbia. No, ma lei guardi, lei non offende la gente. Lei non offende la gabbia. No, è qua che lei non offende, a me non mi offende. No, non l'ho mica offesa, ho detto semplicemente. No, perché no, gabbia è offensivo. Lei non mi offende. No, no, io non sono una scimmia, ha capito? No, questo lo dice lei. Lei deve portare rispetto. Questo lo dice lei. Questo dice lei. Rispetto. Io ho detto che hanno aperto le gabbie. Se lei pensa di essere protagonista delle gabbie, ti faccio un esempio. Io non sono come gli altri, attenzione, io non sono come gli altri coglioni. Marcello, adesso arriva la bastonata, se ancora... Scusami, un attimo, professore. Pronto? Un attimo. Marcello. Mancino. Pronto? Sì, buonasera, cerchiamo il dottor Mancino. Chi è che lo vuole? Cruciani, dalla Zanzara. Parenzo. Radio 24. Guardi, è andato in paese, tornerà più tardi. Non è intanto in casa. Buonasera. Buonasera. A che ora torna? No, penso verso le 9:30 alle 10. Magari ci sediamo domani allora. Va bene. Grazie. Buonasera. Marcello, che dice? Non ho capito. No, cioè nel senso, io nella gabbia non ci vado, capito? Cioè io ci va Parenzo nella gabbia. Cioè intanto lei ha parlato di cose personali che mi riguardano e si dovrebbe vergognare. Io non mi faccio offendere da voi. Io non mi faccio lei si dovrebbe voi. Vergognare che no, per quello che ha detto. Se l'ha detto anche lei. Si dovrebbe vergognare, non l'ho detto. Non l'ho detto e si vergogni. Non l'ho detto e si vergogni. E si vergogni. Se lei va a risentire le registrazioni. Lei è un povero cretino. Non l'ho mai detto, lei è un povero cretino. A proposito di omosessualità lo dice. Lei è un povero. Lei è molto gradevole. Lei è un povero cretino, lei lo sa. E sa di esserlo. E basta l'insulto. No, non è un insulto, e sa anche di esserlo un povero cretino. Adesso passiamo è il suo metodo. Ma che metodo? Io l'ho lasciata parlare fino adesso, poi ha detto una stupidaggine, la sto bastonando. E la sto bastonando. Marcello, adesso passiamo col companatico, stia sereno. Si passa con l'insulto, non con no, ma stia tranquillo. Ma lei stia tranquillo, passiamo stia calmo. Col companatico. Stia sereno. Adesso passa la minestrina, tutto a posto. No. In corsia è tutto a posto. Sta offendendo, no, ma è tutto a posto. Del minorato mentale. Adesso è tutto a posto, passa. No, io non ho detto nulla, non ho detto mica che è in manicomio. No, non ho detto che è in manicomio. Ho detto che adesso passa uno con la minestrina. Sì, la minestrina, ma cosa vuol dire? Passa qualcuno con la minestrina. Passa qualcuno con la minestrina. Scusi, lei si è arrabbiato perché ho detto che hanno aperto le gabbie. E lei ha detto, ma io non sono una bestia, una scimmia. Dico, ma infatti nessuno la sì, ma cosa vuol dire? Non faccia l'ironia, dai. Se lei si sente chiamato non in causa. Non faccia l'ironia. Allora gli dico io una cosa, non gliela dico, gliela potrei dire. Perché lei fa il giornalista? Vabbè, lasciamo stare. E allora cosa vuol dire? Allora lo insulto anch'io. Se il cane è l'insulto, ma io non l'ho insultata. Vabbè, ma è impazzito, su. Mauro da Bologna. Se la morale deve essere l'insulto, che cioè voglio dire, la vostra trasmissione è piano. Adesso passa con la minestrina, un attimo solo. Adesso passa uno con la minestrina. Ah, sta parlando del vichingo, dice lei. Io non so, il vichingo è un mito assoluto. Marcello, adesso passa uno con la minestrina. Nessuno tocca il vichingo. Sì, ma lei offende. Lei fa come quello, sa, il cattivo che ha carezza il gatto. Adesso passa uno con la minestrina, non si preoccupi. Mauro si siede sul trono, deciderei, fa come Mussolini, uguale, fa il dittatore. Assolutamente sì. Ma tanto non funziona più la storiella, perché di cazzo. In questa trasmissione. Lei lo cassano. Vi cassano. E io che faccio, scusi Marcello? Vi cassano tutti e due. E Parenzo che fine faccio? A cazzo nel sedere, ve lo meritate. Ma io che fine faccio poi? Sul piano personale no, perché voglio dire, vi rispetto come persone, ma sul piano intellettuale per me questa trasmissione è da chiudere. No, ma se mi cacciano che fine faccio io? Lei andrà in un altro, tanto Mediaset vi ha già lanciato la scialuppa, stia tranquillo. Ma quale Mediaset? Lei lavora su Panorama, ma stupito, tant'è vero che poi TGcom è trasmessa da Mediaset, ma con la linea editoriale di Soli 24 Ore, che devo dire ha delle trasmissioni fantastiche, che io ascolto sempre, questa trasmissione non c'entra un cazzo, e io sono sicuro che i vostri direttori vi odiano a morte, vi tengono lì così perché per darvi la pappina, ma vi cazzo. Ma quale pappina? Ma mi cazzo una pedata, Mauro da Bologna, stia fermo lì, Marcello. Mauro, ma scusi. Non mi fate parlare, perché questo qui mi salta sopra. Ma questo non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera, Marcello. È un'ora che sta alla radio collegato con noi, avvalorando la nostra tesi che trattasi di persona ricoverata e sta passando il carrellino con la minestrina. No, ma ascolti, comunque mi dispiace, perché è talmente divertente che il mio intervento certamente purtroppo riporta un pochino alla realtà. Volevo dirvi però una cosa che a me pare importante. Nelle trasmissioni di ieri e di oggi ho sentito un po' delle chiaie, poi l'intervista contestatissima, eccetera, no? Mi pare che si parli sempre di più, e anche la gente che telefona parla sempre di più di, comunque, dittatura, di democrazia, e mettono in alternanza questi discorsi a più livelli, gente che parla di svastiche, gente che parla di uomini forti. Guardi, io sono amico come parente di... Com'è? Benettazzo. Io sono amico come parente, credo, di Eugenio Benettazzo, che è un bravissimo ragazzo economista. Bene, mi ha mandato un articolo che ha pubblicato questa settimana che si chiama Risanamento Italiano, dove anche lui dice praticamente la democrazia per qualche anno deve essere sospesa e affidarci ad un regime totalitario, decidete voi se preferite di destra o di sinistra, perché tutto il resto sarà pura perdita di tempo. Lui si riferisce alla soluzione politica e ovviamente economica. Vabbè, Benettazzo è un provocatore. Vabbè, allora andiamo al sodo. No, però il sodo è questo: se ne parla sempre di più, il sentiment è quello della gente in generale, è quello di un uomo forte che arriva a risolvere. Ma quando mai? Ma quale sentiment? Ma assolutamente non è così. Va bene, grazie Giancarlo, provincia di Milano. No, Giancarlo. Il sentiment è quello che il caldo alimenta la follia. Io vado? Posso andare? Sì, può andare. Benissimo, allora, al di là che le critiche sono il sale della vita, le critiche feroci sono delle idiozie, non hanno capito lo spirito probabilmente della vostra trasmissione. Comunque, a parte questo, notavo il buon, adesso mi sfugge, il nostro candidato, non dico premier, ma... Oscar Giannino, che nelle trasmissioni televisive ha modificato il look del suo abbigliamento. Questo mi dà conferma che probabilmente lui è pronto per scendere. Ma chi l'ha detto che ha cambiato look? Scusi, lo dice lei che ha cambiato look? No, lui è molto più serioso ultimamente, l'ho visto in un paio di trasmissioni, ha dismesso le sue giacche a strisce rosse e gialle. Ma quando mai? Io l'ho visto sempre vestito nello stesso modo. Ma ancora due o tre sere fa. Vabbè, secondo lei ha cambiato look e questo è un segnale per che cosa? È un segnale positivo. Un segnale positivo vuol dire che cerca di uniformarsi un attimino a Pronto? Meno stravaganza. Sì? Vittorio? Poi là, vecchio Cruciani. Dove ti trovi? Dove stai? Sono al giornale. A che fare al giornale? Sono venuto qui a corrompere A proposito, ma c'è Vittorio con te, Vittorio Feltri? Era uscito dall'ufficio, c'era Sallusti, ma Feltri. Lo dobbiamo prendere per il culo perché aveva detto che la Minetti si dimetteva lunedì, due giorni dopo che ha parlato con noi. Sono passati 10 giorni e col cavolo che si dimette, Però mi ha parlato bene di te, Feltri, incredibilmente. Ma questo... Parenzo è una scoreggia fritta, ma tu sei invece un pezzo di merda vero. Che ti ha detto? Che Parenzo è una scoreggia, invece io... Scoreggia fritta, sei un pezzo di merda vero. Lo so. Scusa un attimo, Vittorio, però ti voglio chiedere una cosa. Ma hai visto che è morto il consigliere del Presidente della Repubblica, D'Ambrò? Ho fatto il pezzo per il giornale, sono qua per questo. Che sostieni? Che sono stati magistrati? Io sostengo esattamente quello che sostiene la Boccassini. Cioè? Che è una persona onesta, straordinaria e di grande impegno, che è stata sputtanata e umiliata da gente criminale che va fra magistrati e giornalisti equamente divisa. Così domani uscirà sul giornale un pezzo... Cioè dai la colpa della morte di D'Ambrosio a qualcuno? No, ho fatto semplicemente dire quello che diceva di lui Travaglio e quello che dice di lui la Boccassini. Quindi colpa del fatto, e dici? No, io non dico colpa di nessuno, dico semplicemente che prendere una persona onesta e trattarla come un mafioso, l'hanno già fatto, guarda, voi siete i soliti tendenziosi, ma l'hanno fatto col tenente Canale. Canale è stato appeso per 10 anni, era il miglior amico di Borsellino, poi non è accettabile, questa roba qua non è accettabile. Ho capito, come fai a sapere che l'infarto viene dallo stress? Che l'infarto è quello. Io ho semplicemente suggerito di trovare il giornale pena di morte. Basta, poi se uno muore, certo non è mica stato ucciso. Cioè, è morto d'infarto. È stato messo a morte. Cioè, è stato messo quello che voi state attribuendo a me lo ha detto il capo dello Stato. No, che cosa ha detto il capo dello Stato? Voi non l'avete letto bene. No, l'abbiamo letto, l'abbiamo letto. Leggetelo bene, c'è scritto che quello che gli è capitato dipende da una pressione psicologica determinata da una violenza di accuse totalmente insensate e criminali. Violente, parla di violenza. Quindi, violenza è la parola che usa anche la Bocchettini. No, non l'ha legato alla morte però. Ha detto contro di lui ci sono state ingiurie, eccetera, eccetera. Ovviamente non lo puoi legare alla morte perché non è che è stato sparato. Però è vero quello che dici tu, che è stato un comunicato praticamente 10 minuti dopo la morte, per cui insomma è evidente che non c'è un collegamento diretto, però lo si può fare tranquillamente. Io comunque posso leggere quello che scrivo domani, la parte finale del mio pezzo è molto semplice. Leggi. Allora... Sì. Sappia Rita Borsellino che Napolitano è lo Stato, nessun uomo dello Stato ha trattato con la mafia, o dica come, senza infamare con immotivata rabbia, Conso, Mancino, Mori, Mannino, Bironno, Subranni, D'Ambrosio e Napolitano. Ripensi al tenente Canale, amico di Borsellino, ingiustamente incriminato. Il sacrificio di suo fratello dovrebbe imporre il rispetto delle istituzioni e non di schierarsi con chi dice di combattere la mafia, diffamando lo Stato e i suoi uomini migliori e persino il Presidente della Repubblica. Non si fa politica in nome dei morti che non ti possono smentire. Suo fratello, tra Mussolini e Che Guevara, non avrebbe avuto dubbi. Non facciamolo vendicare da uno che avrebbe riso a piazzare Loreto dando calci ai morti. Questo lasciamolo fare ai mafiosi. Ma perché Rita Borsellino? Perché te la pigli con Rita Borsellino? Perché Rita Borsellino è una di quelle che hanno attaccato ovviamente Napolitano, tutto. Però devi andare fino in fondo, sennò non sei davvero Vittorio Sgarbi. Cioè, l'infarto che ha portato alla morte di D'Ambrosio, da che cosa dipende? Dimmelo. Allora, dimmelo. Ti leggo l'inizio dell'articolo. Oh, ecco, la morte di Loris D'Ambrosio è un delitto di mafia. Minacce, maledizioni, umiliazioni, interrogatori hanno trasformato un uomo dello Stato in un complice dei criminali, quali sono considerati Mori, Mancino, Conso da magistrati fuori delle istituzioni, ma che appaiono agire in nome della legge, contrastando eversivamente le prerogative del Parlamento e del Governo. La discussione e la sospensione del 41 bis può e poteva essere proposta da un parlamentare o decisa da un ministro. La chiesero contro la tortura i parenti dei mafiosi, Pannella, Taradas, io... con proposte di legge, lo chiede oggi da Ciamaraini. Si può discutere, non incriminare, con queste accuse D'Ambrosio è stato ucciso e la mafia ride perché è morto un uomo onesto, sputtanato, da falsari e disonesti. Vabbè, insomma, tu dici è morto uno sputtanato, cioè non è che lui è morto causa lo sputtanamento. Non è che c'è una causa per la morte di infarto. Appunto. Però tu dici non è casuale, cioè, è un ragionamento che fanno molti. Cioè, no, dopo... Ma ti dico di più, guarda cosa dico, il Presidente Napolitano ora deve reagire consentendo provocatoriamente l'ascolto delle intercettazioni e denunciando contestualmente i magistrati per aver inventato un reato diffamando persone oneste e mortificando lo Stato. Questo è giusto. Questa è la mia idea. Che il capo dello Stato sia favorevole... Quando verrà fuori che non c'è scritto niente, perché è normale che quando tu sarai stato licenziato, sarai stato il numero due di Cruciani. Ora, siccome questo è stato Presidente del Senato, Presidente del CSM, potrai chiamare Napolitano, non è che sia proprio un piacere, sono due persone che sono state insieme per 10 anni. Mancino, dici tu, no? Ecco, quindi non lo trovo così singolare. Il numero due chiama il numero uno. Allora, su questo hai ragione. Pensato, allora, a questo punto io dico, tu fai sentire le intercettazioni, risulterà che hai ragione, tranquillo. Ecco, e poi li denunci perché hanno inventato il reato. Il reato non è indagare, è parlare di trattativa. La trattativa la fai tra persone che hanno lo stesso peso. E siccome non guarda, lo dicevo ieri sera a cena, la trattativa, cioè come si può sottoporre indagine la trattativa dicendo che c'è un attentato ai corpi dello Stato? Al limite quello dipende, al limite quello è relativo ai mafiosi. Ma i politici, se un politico ha attivato una trattativa, perché dovrebbe essere coinvolto? È vero che la legge italiana poi si può estendere come al solito, come uno vuole. Ma poi però... non è una trattativa, è quello che dice, ti leggo quello che dice Di Lello, che era amico... No, però il processo non sta accertando questo. Beh, certo, come no? È attentato a un corpo dello Stato, una cosa di questo tipo. Di Lello, amico di Borsellino, poi deputato di Rifondazione Comunista, nel pool fino all'85, dice quelle intercettazioni già non dovrebbero esistere più. Poi dice, dopo 20 anni penso che la trattativa potrebbe essere riletta come un tentativo disperato ma necessario dello Stato che era in ginocchio per uscire dal tunnel delle bombe. E lo dice un magistrato straordinario come Di Lello. Allora a questo punto che viene fuori in groia e col suo Che Guevara mi viene a spiegare che lo Stato ha trattato con la mafia, non ci sto. Ti è piaciuta sta cosa di Che Guevara? Certo, il Che Guevara, dall'altro però preferiva Mussolini. Vengano, siccome si conosce quello che pensava di Mussolini Borsellino, voglio capire come poteva immaginare che il suo migliore amico era uno che aveva Che Guevara. Allora, è irrilevante. Ieri sera Mannino, ti voglio far ascoltare una cosa e poi chiudiamo. Una cosa che ha detto Mannino ieri sera qui alla Zazzara. Mannino ha detto: io sono un gigante morale rispetto a Ingroia. Sentiamo, sì. Sentiamo. Rispetto a Ingroia, come si sente? Io sono un gigante morale. Un gigante morale, avete sentito come l'ha detto, il modo in cui l'ha detto. Guarda, io sono vecchio amico di Mannino e ha già fatto 2 anni e mezzo di carcere per essere prosciolto, mi pare che andrebbe lasciato stare. Per di più posso anche ricordare, io vi ricordo, prima che io ho incontrato Vito Ciancimino e so tutto quello che lui aveva in mente della politica prima di essere arrestato. Quando l'hanno arrestato è chiaro che non poteva più trattare con nessuno, era in carcere. A questo punto Mannino, quando 52 parlamentari, lo accenno lì, Taradas, Biondi, Sgarbi, firmarono per eliminare il 41 bis, chi lo volle confermato fu Mannino. Quindi proprio Mannino è l'opposto di quello che dicono, è un fesso, è completamente obnubilato dalla lotta alla mafia, tanto da ritenere che fosse giusto quello che noi chiamavamo tortura. Io invece penso che il 41 bis non sia affatto una tortura. Comunque, vabbè, questo ognuno, ognuno. Però questa era la lettera famosa che mandarono anche a me, a Scalfaro, a me, eccetera, era quella. Vabbè, che ha detto Feltri di Parenzo? Che tu sei un uomo straordinario, un uomo di destra che finge di essere furbamente di qualunque, invece l'altro è un ovvio, banale, una scoreggia, non è possibile, una scoreggia non è possibile, però vuole bene come un figlio deficiente. Marcello, ci sei ancora? C'è ancora? Fa ridere lei, fa ridere, se non piangere, ma lo cazzo l'ha pedato. Io sono contento perché farà la fine di Santoro a casa. Come dice Parenzo, ma perché? Che è successo? Voi, non noi. Ma Marcello, che noi è successo? Noi avremo spazio, finalmente. Potremo parlare. Ma che è successo? Ma adesso che è successo? Non ho capito. Che c'è di drammatico? Che allora, è accaduto? Sgarbi se lo può permettere. Lui c'è la cultura, io no. Lei zero. Io almeno due sì. Simone Martini so chi è almeno. Sì. Voglio dire, nel senso, lei vacca, cioè lei non può offendere la gente. Ancora lei, questa storia, ma ripete sempre le stesse cose. Prima, ma lei sta ripetendo le stesse cose. Ascoltare le persone quando parla. Mamma mia, ripete le stesse cose. Quel signore di prima, mi sto annoiando, ma lei lei perché sia lei deve fare il ruolo di deve ascoltare le persone, non può cassarle. Ma io le casso quando voglio. Lei manca di rispetto alla gente. Sì, ogni tanto sì, è vero Marcello, è vero. Un attimo solo, Pier Giorgio da Terni. Buonasera a tutti. Sì, dica. No, niente, io. Ma da dove sta chiamando, scusi? Da dove chiama? Da dove chiama? Da dove chiama? Da Terni. No, ho capito, ma si sente. Si sente male, si sente un ritorno, c'ha l'auricolare, cos'ha? No, io sono al telefono. Allora. No, non si capisce niente. Cinzia da Roma, buonasera. Sì, buonasera a tutti e due. Come andavo? Come sono le parenze ad avere tutto questo tempo che deve stare dietro? La richiamiamo, non si sente nulla nemmeno con lei. Marco dalla provincia di Caltanissetta. Sì, buonasera dottor Crugiani. Dalla provincia di Caltanissetta si sente meglio, su. Vada. Ascolti, io intanto mi auguro che Marcello non ottenga quello che lui vuole, cioè di fare chiudere questa trasmissione che la ritengo molto bella. Non la otterrà, non otterrà nulla, diciamo. Io lo dico subito, al massimo ce ne andiamo noi, non si preoccupi. Seria nel momento giusto e bella, divertente nel momento anche quanto è necessario. E dunque? Quindi io volevo in ogni caso quindi fare in modo che Marcello non ottenga questo e sicuramente non lo otterrà. Per quanto riguarda quello che aveva detto su Ingroia, quell'ascoltatore, che ha detto? Io ritengo, ha detto che Ingroia sostanzialmente combatte chi combatte la mafia, e questo non è assolutamente vero, ritengo che non sia così. Lui mette in primo piano la sua faccia, la sua persona, la Vabbè, sua sicurezza. Poi? E niente, basta, volevo essere solo d'accordo sul fatto che Ingroia ce ne fossero non uno, ma 10, 100. Cioè, 10, 100, 1000 ingroia, va bene, ho capito. Marcello. Anche nella frase che ha detto lei adesso, al massimo ce ne andiamo noi, come dire, forse la comincio a sentire che tira la brutta aria. Ah, dice lei, Cioè, comunque sia, quando si cominciano a muovere certe cose, io capisco che i suoi colleghi la guardino un po', non la guardino bene, ma che non lo so, ne vado anche fiero. Ma il livello culturale degli invitati che voi invitate, cioè di quelli che invitate alla trasmissione, ma non vi vergognate. No, cioè, per niente. Lei, la gente che vi chiama, che dice delle cose profonde, magari argomentate difficoltosamente, perché non sono dei giornalisti, e voi le cassate. Ma quali cose profonde? Sì, ma di che parliamo? Lei sì, lui no. Prima l'ha detto, lui no, lei vaffanculo. Lui no, ma no, lui ha rotto i coglioni. Lei no, no, vaffanculo. Ma sì, per me, lei no, sì, veramente rende non conto? Veramente non ho detto queste parole, comunque per se vuole. Per senza contare, aprite le gabbie, chiamiamo l'ambulanza, vai in ospedale, lei sta malato di mente. Quello di ieri che ha detto una cosa giustissima, aveva bevuto, ma poverino, stava argomentando, l'avete insultato, gli avete dato del malato mentale. Ma voi non vi vergognate? Cinzia da Roma, buonasera. Sì, buonasera, sono sempre io. Dica. No, volevo sapere come fa Parenzo ad avere tutto questo tempo, visto che deve stare dietro tutte le querele che vuole fare, per tutti gli insulti che gli mandano. Prima. Non ho secondo capito. Poi sto ancora aspettando. Non ho capito cosa ha detto. Come? Non ho capito che ha detto, scusi, non ho sentito. Ho detto come fa Parenzo ad avere tutto questo tempo su tutte le querele a cui deve stare dietro. Vabbè, poi? No, ma infatti è un modo di dire, non ho mai guardato nessuno. Ma dovrà ridere quando dovrà chiamare lui l'ambulanza per se stesso, visto che qualcuno prima o poi ne darà tante, ma tante, che poi rideremo tutti quanti quando leggeremo sul giornale che è stato picchiato. Ma chi? Secondo... Cioè lei si augura che Parenzo venga picchiato, non ho capito. Beh certo, quando si vuole si vuole. Ma si vergogni. No! A lei le devo dire, visto che dice sempre che qui non c'è democrazia perché lei fa come cavolo gli pare. Esattamente. Perché se due omosessuali si baciano in pubblico in presenza di bambini, uno che gli dà fastidio non può picchiarli, visto che la democrazia non esiste qui in radio. No, non esiste da nessuna parte, lei non può fare come vuole. Ma che sta dicendo? E poi quell'altro mentecatto che dice che adesso è cambiato come persona, e certo, gli fa comodo, lavora a nessuno l'occhi carino, difende chi ha ammazzato, cioè c'è un contraddittorio enorme, no? Ma adesso parla male a qualcun altro, ma chi ha ammazzato come lui, questo bastardo, e lo fate pure parlare, ma mi rendete conto? Ma dove si trova lei? 35 persone, ma io vorrei stare dentro sotto la radio, aspettarvi e mettervi sotto con la macchina tutti e due. Dove si trova? Dove si trova lei? Piuttosto che far pagare una querela a Parenzo, pagherei qualcuno per fargli dare un sacco di botte. Ti rendo conto? Dove si trova? Classica, la signora, dove si trova lei, signora? Che ride per Davide il vichingo quando lei lo scarfano in persona. Dove si trova lei? Di sensualità non ha niente, se la va a prendere con uno che è bello come il sole, che vuole trovare un qualcosa nella vita. Ma lui che fa? Cosa fa nella vita lui, che è soltanto un leccapiedi? Dove si trova lei, signora? Scusi. Ma io sono a Roma, guardi, nella sua città. Ma in che zona, in che via, scusi, in che via, in ma che quartiere? Ma certo, c'è ragione Marcello, quando non sa che cosa dire. Bene, non si preoccupi, non si preoccupi. Mio, stia tranquilla. Stia tranquilla, adesso vengono, la vengo a trovare, Vengono due signori col camice bianco. La accompagnano gentilmente a una struttura dedicata. La vengo a trovare. Beh, perché la cosa è molto lunga, naturalmente. No, la vengo a trovare e le porto anche un cadeau. Si prevedono tempi molto molto lunghi. Sì. Marcello, che dice lei? Lei anche qua, insulta la gente, perché questo signore le cose ci vuole vedere morti. Ma come? Era indignata, no, ha sbagliato lì perché vi ha insultato da quel punto di vista, vi ha insultato, ha usato delle parole volgari, però ha detto delle cose giuste. Ma era indignata per quello che avete fatto ieri, vi dovreste sotterrare. Mamma. Qua io sono a Bologna, qua sono morte delle persone, voi non ve ne rendete conto la storia di questa città, voi non capite. Cosa è successo qui? Luciana, voi sì, Luciana da Roma. Avete capito cosa è successo? Buonasera. Senta, io volevo semplicemente dire, io sono una suocera, forse se muoio in un attentato qualcuno mi piange. Quello che mi dispiace moltissimo è che Fioravanti non è pentito, perché lui è rimasto un... Ma no, dice di non aver fatto la strage, per cui è diverso. È un criminale fascista, ma lui si è rifugiato in quell'associazione, perché forse gli fa anche comodo, ma le parole dicono chiaramente che lui non è pentito. Vabbè, poi? Poi voglio fare i complimenti a lei, perché lei è una persona intelligente. E tutta questa gente, ma non li voglio i complimenti, non si preoccupi. No, i complimenti. Passi una buona serata, Marcello. Sono una pratica che produce sempre dei risultati. E la gente finché si arrabbierà con lei e telefona, lei sarà un gran successo. Va bene, Marcello? Fa il professore, fa la persona colta, quale non è per niente. Ma chi? Zero, ma totale. Ma chi? Zero totale, proprio negato. Magari non lo so, avrà altre doti. Ma correrà chi? Veloce, ma anche io corro, ma per il resto zero proprio. Poi, cioè, voglio dire, ma voi non vi rendete conto cosa avete combinato ieri sera? Ma che abbiamo fatto? Un casino. Io spero veramente che succeda qualcosa, cioè veramente che qualcuno capisca. L'abbraccio, a domani, 18:30. Lo capisco, non lo capisco. 18:30 domani. Si chiude, la trasmissione si chiude. Adesso avete Milan, che è molto bravo, serio, professionale. Viene lui, chiusa. La Zanzara, di Alessandro Milan. È ancora a casa, Emo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.